Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, bentornati, domenica 26 febbraio, 14:35 minuti e 18 secondi in questo momento. Il nostro amico attore doppiatore è già al mio fianco, ma sapete perfettamente che io apro sempre ricordando chi con la voce e non solo ci ha regalato dei momenti molto belli nella nostra vita e magari continua anche a regalarceli, per carità. Uno di questi è Paolo Ferrari, il grande attore 88enne al quale mando un bacio grande come il mondo. E poi c'è una cantante americana che magari non conoscete ma straordinaria, una cantante jazz che ricorda molto Billie Holiday. È nata qualche anno fa, il 26 febbraio, lei Erika Badu. La ascoltiamo in questo pezzo meraviglioso con i Roots, prego. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling of is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop and keep telling me, telling me, yeah. Va bene, l'ascolterei tutta. E nel frattempo saluto dall'altra parte del vetro l'immancabile Alessandro, grazie tecnico del suono, Rachele, caporedattrice di se stessa e non solo, grazie ai nostri bravissimi autori Mauro Meconi e Alessia Navarro, e grazie anche a Milano per la messa in onda, grazie per essere su, magari stanno soli e noi invece qui siamo in compagnia, e in compagnia di uno straordinario attore doppiatore. Non sei in pensione, vero? No. No, nonostante l'empalse versata sia stata tanta. Vi racconto un po', posso dire quando sei nato? Sì, sì. Ma tu sei nato il primo gennaio. Sì. Cioè tu hai rovinato il capodanno ai tuoi o l'hai resi felici? L'ho rovinato molto più di quanto non dica la data. Perché in realtà non sono nato il primo gennaio, ma sono nato il 31 dicembre verso le 7:30, 8, cosa che di sera ovviamente, cosa che ha obbligato l'ostetrico. Abbiamo scavallato perché allora usava molto sto fatto, perché... Però c'è un anno in meno così. Non è quello, in realtà partivi un anno dopo per il militare, che allora era importante, non si sa perché. Per cui ti hanno messo primo gennaio. Esatto, però il povero ostetrico si è dovuto precipitare alle ore 8 di sera a fare il parto e ovviamente per lui il capodanno anche ma sei nato bene lì. Perché sei qui, sei del 57, diciamo che se t'avano tirato fuori col forcipe o con le ventose che all'epoca usavano molto. Usava molto, io sono nato col forcipe e si capisce insomma. Sì, beh, quello si intuisce. Mi ricordo che sei il mio ospite straordinario. Mi devi trattare bene. E anche vecchio amico. Esatto. E per cui sei nato. Veramente hai passato lì, insomma. Abbiamo passato lì. Sì, esatto. Il capodanno, l'ostetico, mia madre, mio padre e tutto il resto della famiglia l'hanno passato. Tu per cui lo festeggi con gli amici? Capodanno? No, io in realtà cerco sempre di svicolarlo. Il capodanno è un po' triste, non trovi? Sì, ma in realtà io cerco sempre di passarlo o lontanissimo dall'Italia. O comunque insomma fuori dalle rotte normali, non mi piace fare il capodanno. Ma non ti piace perché passa un anno e no, capodanno non stesso? Non mi piace questo senso di doversi divertire per forza. è vero, quindi... per cui vabbè, però sei nato il primo gennaio, a cavallo. Sì. Non ti hanno dato manco i soldi, neanche se è stato il primo a essere nato, sai che no. C'è questa gara. Già, c'è un articolo di giornale in realtà che mia nonna conservava con grande... Certo, gioia, orgoglio. Sì, che dove c'era il primo nato dell'anno è Fabrizio Pucci. C'era questa mia fotina piccolina che lei teneva in questo giornale ingiallito. Ho detto, no, ma che dobbiamo fare con questa pagina di giornale? Vabbè, però, vedi, già era un piccolo accenno a quello che saresti poi diventato, insomma, no? Sì, è stato il mio primo articolo sul giornale, sì. No? Poi è successo qualcos'altro, ringraziando il cielo. Vi ricordo i nostri numeri, ma lo sapete perfettamente, gli sms 349-238-6666, il nostro bellissimo sito Facebook, quando volete e come volete. Non ho detto ancora il suo nome, ma tanto la voce già ha raccontato molto. Io vedo se già rispondete, già cominciate, va bene. Nasci a Roma. Nasco a Roma. E ovviamente tutto e per tutto Roma. Romissima. E lui ha accettato oggi di venire qui nonostante tutto, perché si vive in una società multilaziale, per cui mi ha accettato. Sì, ma io appunto non sono un antilaziale, quindi poi quindi la domenica passiamo insieme, anche perché giochi stasera tu. Esatto. Ecco perché attore, ovviamente l'ho detto, doppiatore, dialoghista, è bravissimo anche direttore del doppiaggio italiano e soprattutto noto per aver prestato la voce a dei grandissimi attori. Io comincerei senza dire ancora il nome, ma con un momento di un attore che ormai tu lo racconti praticamente da sempre. È tratto da un X-Men, lui è Hugh Jackman, è Wolverine. Se Wolverine, sì. E allora ascoltiamolo un momento. Sei qui. Certo. Puoi restare? Non posso. Sì che puoi. Era quello che volevi. Non più. Mi sento sola qui. Tu mi hai mandata qui. Avevi scelto il male, Jean. Dovevo farlo. Ti amo, Jean. Ti amerò sempre. Beh, vabbè. Dovevamo andare in onda intorno a mezzanotte e un quarto. Era più adatto. Senti, uno presenta X-Men, presenta Hugh Jackman, Wolverine. Ti amo. Se uno si aspetta dell'altro. Ehi! Fabrizio Pucci, signori. Fabrizio Pucci. Insomma, tantissimi. Hugh Jackman, Brendan Fraser, i personaggi di Garfield nel primo doppiaggio dell'omonima serie, Tim Curry, William Defoe, anche Russell Crowe, alternandoti ogni tanto con il bravo sì, Luca Wall. Succede una cosa abbastanza bislacca. Vi siete palleggiati Russell Crowe, devo perché dire. Perché in genere chi fa il trailer poi non fa il film e viceversa. Succede questo. Sì. È successo per Il Gladiatore, in cui ho fatto il trailer e lui ha fatto il film. È successo per A Beautiful Mind, lui ha fatto il trailer e io ho fatto il film. È successo in American Gangster, lui ha fatto il trailer e io ho fatto il film. Allora perché quando vi chiamano per fare questo? Infatti non lo faccio, non ci vado. la fa Massimo lui, Corvo. Vai tu, vai Massimino, con un'altra vocetta leggerissima. Insomma, però tu debutti a 17 anni. Sì, a teatro con Chi crede il popolo io sia. Sì, esatto. Per cui nasci subito teatro, cosa di base, quello diciamo sempre, la voce, il corpo, tutto. Quello il è il primo amore, è il grande amore. E dal 74 all'87 uno spettacolo l'anno, per cui è anche di più di uno spettacolo l'anno. Sì, poi succede anche farne doppi. E con chi era? Tu hai cominciato, hai creduto subito? C'è qualcuno in famiglia che lavora nella... No, in realtà sei nessuno, anche tu un figlio d'Artri. Mio padre, sì, figlio d'Artri, esatto. Mio padre, anzi, ma mi tagliò i viveri quando gli dissi: guarda papà, io non voglio fare il dentista come te, io voglio fare l'attore perché c'ho il sacro fuoco. E lui mi ha detto: benissimo, benissimo. Bene. Con i soldi tuoi, però. Esatto, perché no con i denti miei, le capsule mie. Dimenticale. Il prossimo ponte che faccio te lo costruisci da solo, esatto, con le tue mani. Per cui lì da solo hai deciso tutto, sì, questo. Sì, sì, sì. Quindi ho finito il liceo, ho fatto la scuola di recitazione Fersen. Vabbè, allora Alessandro molto... Fersen, sì, era l'alternativa validissima, era l'unica, grande, esatto, all'Accademia, devo dire, che funzionava molto bene. Sì, adesso sì, si sono un po' allargate le accademie. Chi non lavora fonda un'accademia, bisogna stare un po' attenti. Noi invece lavoriamo e andiamo subito in pubblicità, ma ve lo ricordo che Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Come promesso, subito dopo il traffico siamo tornati, 14:45 e 30 secondi in questo momento, e andiamo avanti questa biografia. È giusto farci una passeggiata ogni tanto, io salto da un palo all'altro, però invece è bello cominciare soprattutto con chi non sa dall'altra parte di questi microfoni che sì, tipo che di cosa percorso succederà. Cioè, esatto, ma soprattutto perché dice, beh, come è nata questa passione, quanto è stato difficile, perché adesso la gente, vedi, non voglio fare l'attore, voglio fare solo il doppiatore. Io dico sempre, non puoi, perché non si può fare il chirurgo senza aver fatto medicina. Esatto, è l'esempio che faccio sempre io, quando mi dico, ma scusa, ma io voglio fare il doppiaggio, non posso fare solo doppiaggio e non fare recitazione. No, è come se dice, voglio fare il neurochirurgo, però non voglio fare medicina. No, non subito, si può fare. Perché c'è la mano ferma e taglio da Dio. Non si può fare, esatto, non si può fare. No, ma questo è anche un altro esempio di chi ha cominciato senza la famiglia, perché insomma anche queste cose, è vero, se uno c'è un notaio come papà o dentista, magari rischia di fare il dentista o fare il notaio. Sì, ovviamente sì, sei avvantaggiato se uno ha la famiglia all'interno di questo mondo. Tu hai due figlie. Io ho due figlie. Una però è nel doppiaggio, no? Guarda, dunque, una fece a suo tempo delle cose, fece anche un bellissimo film che si chiamava Come d'incanto, era Disney, sì. Sì, dove era anche molto brava, però lei si è stufata molto molto presto. Invece la seconda sembra essere molto più determinata e appassionata a stare molto, al buio della sala. E già, voglio dire, come grosse cose produzioni che ha fatto il GGG adesso di Spielberg, il grande, gigante, gentile. E... beh, bel lavoro, bello. E visto. Adesso farà, appena finito di doppiare Logan, dove fa, vabbè, non vi voglio fare anticipazioni, non puoi, lo sai che firmiamo una carta, esatto, che non devi non fare si lo spoiler può, finché non è uscito. Comunque è presente anche. Che poi in Logan film, non pensavo fosse, invece è lui. Wolverine. Sì, lui ha dichiarato che non vuole più fare Wolverine, e lo capisco, poveraccio. Si perché... è tagliato le unghie perché cominciava. Sì, no, perché 3 mesi di palestra prima di ogni film, poi deve prendere degli alimenti che gli fanno prendere peso. Ma visto che fisico che mettono, insomma. Poi però buttano, dopo 2 giorni c'hanno la panza, io non riesco a capire come si fa. Vabbè, ma c'hanno il tempo per poter diventare quello che a noi, certo, se lo dicono un giorno prima, non se doppiaggio lo dicono un minuto prima, pagina 12, anello 24. Sì, tu in 3 secondi... Senza andare in palestra, senza quei devi muscoli. Essere quello. Dagli quei muscoli a tutto spiano, anche se fai dei film, perché poi tu a 30 anni già... dopo il teatro, hai fatto proprio un percorso giusto. Già cominciavi col doppiaggio? Sì, io ho cominciato presto anche col doppiaggio, però il doppiaggio era un riempitivo, esatto, diciamo. Era il companatico, esatto, fra il teatro e la televisione, facevi e il cinema. Teatro, poi tornavi a Roma dalla tournée, facevi un po' di doppiaggio, un po' di radio, un po' di cinema, un po' di televisione. La morte sua proprio. E hai fatto dei lavori vicino poi a Lino Banfi, a Diego Abbadantone e tanti altri. Sì. Che passaggio è stato questo dal teatro al cinema? Come è nato? Vabbè, ma non lo so, io l'ho sempre vissuto come un... cioè, il cinema in realtà non mi ha mai interessato più di tanto. È un... è una scelta. Sì, è un mezzo che non mi piace come attore. Io sono molto più legato al teatro, anche alla radio. La radio l'ho fatta per tanto tempo, mi ha molto divertito. E il cinema è bello, molto bello da vedere. Fruire del cinema è fantastico, secondo me. C'è qualcuno che ti vuole bene, ti saluta, complimenti, eccetera. Poi uno è lieto di sapere che c'è chi odia come me il Capodanno. Ottimo programma, bene, Riccardo da Roma. Ciao Riccardo, ci sono tante persone che non amano certe feste comandate. Poi invece gli anni 90, l'epoca degli sceneggiati, via, hai fatto un altro salto, sei andato nella fiction, nel Caro Maestro di Rossella Izzo, L'Isola del Tesoro. sì, di Antonio Margheriti. Sì, dove era, che era uno Anthony strano M. Dawson, quando facevano i film western. Sì. Antonio Margheriti, che all'epoca era, sì, così. Non si poteva avere un cognome italiano, era vietato, bisognava essere, per essere americani, credibili, americani. Ma se pensate che Per un pugno di dollari era diretto da Bob Robertson, sì, che Roberto De Roberto, che è il papà di Sergio Leone. Esatto. Per cui pensate un po', anch'io ho fatto tanti film con Scorsese, eccetera, che mi chiamavo Joe Aitich, Giuseppe Insegno in inglese, ero così, poi invece vabbè, sono nel dimenticatoio, ma non sono io il protagonista di questa cosa. E poi con Rossella ha fatto tante cose, sì, tanti altri sceneggiati. Anche perché in qualche modo c'era un rapporto familiare, siamo stati, diciamo, cognati per tanti anni. Però dopo che hai cominciato, bisogna, sì, diciamolo, dopo. Dopo hai già cominciato. Beh, quello sicuramente sì. Per cui il primo approccio al doppiaggio com'è stato? Il primo approccio al doppiaggio viene proprio dalla radio, stranamente, perché facevo radio anch'io su Rai 2. Radio 2. E in questa trasmissione c'era anche Silvia Monelli, che è una direttrice, un'attrice, tra l'altro, sì, da giovane era di una bellezza sconvolgente, eccetera. E lei sentì questa voce, che già a 20 anni avevo un bel vocione pieno, mi disse: oh, che bella voce che hai, ma perché non fai un po' di doppiaggio? E io dico: magari. Sono qui, basta che fai questo numero. E chi te ci ha mandato, diciamo, a Roma? Esatto. E quindi mi chiamò per fare dei turni. Andai subito bene, misteriosamente, e quindi da lì ho cominciato. Ed è andata avanti. Quindi grazie, proprio alla radio. Io mi sento un altro pezzo, perché me lo tengo, il Russell Crowe di Beautiful Mind, devo dire che è meraviglioso. Senza nulla togliere comunque all'amico Ward, ovviamente. Io mi ascolterei un Tom Hanks d'annata, anche qui c'è stato un rimbalzo fra voci... Sì. Fra te, Angelo Maggi, guarda, Chevalier, se vai a vedere, insomma, tutti tu, più o meno l'abbiamo doppiato. Ma è normale, insomma, c'è questo ping pong, anche perché qui serviva magari una voce diversa, più, sì, presente. Era un film bellissimo, era mio padre. Era bello, sì. Bello. E invece noi ce l'ascoltiamo, il corpo di Tom Hanks, la voce del bravissimo Fabrizio Pucci, eccolo. E che ci fate qui in questa landa sperduta? Siamo rapinatori di banche. Siamo soltanto di passaggio. E quando avrò la mia parte del bottino? Ma... E quanto vuoi? $200. Va bene, è andata. Potevo chiedere di più? Non lo saprei mai. Una voce più timbrata di quello che siamo abituati ad ascoltare, perché lui faceva una parte più, sì, timbrata. Beh, in questo film Tom Hanks, come raramentissimamente gli accade, era... Un cattivo molto particolare, sì, era un cattivo, sì, buono, ma comunque era uno spietato assassino, insomma, ci stava. Non era il tipo di personaggio che lui in genere fa. Qual è stato, lo dico sempre, faccio un po' come fa quello Mezzanotte e dintorni, che dice che cosa c'è dietro l'angolo. Io dico sempre invece: qual è stato il tuo sliding doors, quel momento che hai capito, ok, posso fare l'attore, dopo che hai parlato con papà, che ti ha detto va bene, fallo, ma sono affari tuoi. Tu hai cominciato con un po' di paura, immagino. Sì, mi ha terrorizzato anche, perché mi ha detto... quando hai pensato, ho detto ok, ci sto. Lo sliding doors è stato il momento in cui un'amica di mio padre, che si interessava in maniera trasversale di teatro, Annabella Cerliani, grandissima attrice, persona... brava istruttrice, l'anima grigia, l'anima bianca di Gigi Proietti, esatto, con lui ha fondato la storica accademia. E lei venne a vedermi in uno spettacolo che adesso, a ripensarci, mi fa sorridere, perché erano gli spettacoli delle cantine di quegli anni lì, il teatro off, quello vero, in cui apparivo peraltro anche nudo. Non c'erano neanche le macchine da ripresa, i telefonini, per poter testimoniare, per cui puoi raccontarla come vuoi. Sì, esatto, posso favoleggiare. Esatto, gente che faceva la fila, se ne parlava. Sì. In realtà il teatro era un piccolo teatro che si chiamava La Ringhiera, che era quasi disperatamente semivuoto, insomma. E facevamo questo spettacolo abbastanza... Come si intitolava? Il viaggio di Marta, con Anna Bruno. E tu eri nudo dentro questo... Sì, c'era una scena di sesso tra me e Marta, certo. E quindi mi si vedeva nudo, e lei pure, era un momento di grande rottura per il teatro, periodo, off, ragazzi, usava molto, c'era, certo, la Kusterman, che proprio era... Sì, se c'era da spogliarsi... non c'era uno spettacolo in cui neanche Pippo Bruto e Paperino, lei si trovava spoglia. Il modo di spogliarsi, sì. E quindi ci si spogliava, e lei venne a vedere questo spettacolo incomprensibile, di quelli proprio... che anche io tutte le sere mi chiedevo: ma che cosa avrò detto? E vide lo spettacolo e in camerino mi disse: Fabrizio, sei proprio bravo, veramente. Poi ho detto, da lei lo spettacolo è orrendo, esatto, ma tu sei veramente bravo. Accidenti quanto sei bravo. E lì mi si aprì un po' il cuore, sì, bella, forse lo posso si fare. Può fare. E sì, sono due le cose: o ti dicono non vali niente, allora lì combatti per dimostrare quanto vali, oppure c'è una persona importante che ti dà un po' di benzina e ti fa andare avanti. Ma insomma, come volano questi minuti? A parte, ci sei, tranquillo, tranquillo. No, no, ancora ci abbiamo tempo. Fra un po' arriveranno un gruppo di ospiti pazzeschi. Sono riuscito a ritrovare i miei amici, i cugini di campagna. Tutti verranno in studio. Non so che succederà. E anche Cristiana, la figlia di Little Tony. Quanti baci che abbiamo rubato ballando sulle note dei cugini di campagna. Dopo rimani, gli facciamo una sorpresa. Quando primo blocco che ci saranno, tu stai con noi ancora altri due blocchi insieme. Tecnicamente, però, quando arriveranno, tu rimarrai perché dovrai leggere con la tua voce senza dirgli niente. Anima mia, va bene. Cioè, recitata, guarda, quello dobbiamo farlo. Ecco, testimoni sono i nostri radioascoltatori. Non so se Ivano e company lo stanno ascoltando mentre stanno arrivando in macchina. Però dai, faremo una cosa del genere. Sì, guarda, mi riempie di gioia. Sì, con loro che fanno il sottofondo. Oh. No, questa rimane una storia come te nudo alla ringhiera, non del palazzo di casa. Tu invece preparati questa bella poesia di Stefano Benni. La leggerai fra pochissimo. Noi andiamo un attimo in pubblicità. Restate con noi, ovviamente. A tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori, quasi le 15 in punto, mancano una manciata di secondi. Al mio fianco sempre Fabrizio Pucci, potrebbe rimanere al mio fianco almeno per altre 2-3 puntate, visto il migliaio di film che hai doppiato, gli sceneggiati che hai fatto. Ma c'è una famiglia. Del tempo, ma sì. C'è una famiglia. Tengo, c'è un lavoro. Tengo famiglie. Esatto, e soprattutto ritorno a casa prima delle 8.45. Sì. Senti amico mio, io vorrei chiamare da quest'altra parte del vetro Mauro Meconi, perché è, oltre ad essere uno dei responsabili di questa trasmissione, è quello che mette in onda anche i momenti dove voce e volto si mettono insieme quando c'è una lettura particolare. O la mettiamo, va in diretta, questo lo domando, va in diretta Facebook, diretta, va bene, allora potete anche collegarvi tramite Facebook e poi se no seguirlo sul nostro sito che è Voice Anatomy, che conoscete perfettamente. Meconi, pronti? Lei è un regista, attore prestato alla radio, guardi, lei è veramente umile. Lei quanti poi film ha fatto? Multitasking. Quanti film hai fatto? Come tua zia, 32-33. 33, belli. Anche belli quelli. Vedi, poi lo multitasking. Sì, sì, multitasking, no, ruba i portafogli, tutto così, multitasking. Allora, Fabrizio, una musica degna, perché sta bellissima. Il suo tappeto musicale. Sì, questa è una poesia d'amore meravigliosa. Mettici tutto l'amore che hai nella voce, già, Fabrizio. Già il titolo dice tutto. Aspetta che mettiamo anche la cuffia, così sentono anche il suono della musica. Ci sei, vai Fabrizio. Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, che la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. E tutte le perle verrò a portare davanti a te. E il mare non piangerà di questo sgarbo, che onde a mille e sirene non hanno l'incanto di un solo tuo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e le porterò domate e su te piover dovranno quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta, perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. È bellissima, soprattutto letta in questa maniera, uno non si aspetta quel finale. Sì, Stefano Benni, Stefano Benni, grande, grande ironia, grande bravura, ma soprattutto vedi, E secondo me i poeti, meno male che non leggono le loro poesie. No, guarda. Io credo che se Leopardi leggesse L'infinito o altre cose, la gente scapperebbe. Dice, ma chi ha scritto questa roba brutta? TV, sorrisi e canzoni. Esatto, non si può fare. Non abbiamo mai sentita la voce di Giacomo Leopardi, ma posso immaginarla. Perché ma guarda, proprio... a me è successo tante volte di andare a queste rassegne di poesia in cui ti chiedono di leggere le loro poesie, i poeti. Ma spesso ci sono i poeti che leggono le loro poesie. Ed è in genere un esercizio terribile. No, è brutto. Proprio una roba... non sono leggibili. Sì, ti sembra, dici, ma ha capito quello che sta leggendo? Ma l'ha scritta lui. No, no, no, ma è così, ma secondo me così è meraviglioso. Ho fatto questo esempio, abbiamo avuto dei poeti bravissimi, giovani della Cardiopoetica, un gruppo bellissimo, letta da loro, era una cosa insentibile. Sì, è una cosa terribile. Immediatamente avevo una persona come te, grande professionista della voce, e allora è diventata... quella cosa che doveva essere, esatto. Che nel loro cuore, come quando uno legge un libro ed è un attore, ma dentro la testa si fa i personaggi, le intenzioni, lo vive in un certo modo. Per questo poi magari delude quando poi vedi il film, perché ti aspettavi altre facce, altre situazioni. Insomma, amico mio, tu hai fatto tanti miti, perché anche il Brendan Fraser della Mummia, per esempio. Quello, no, quanto mi sono divertito, mamma mia. Ha fatto una... quanti erano questa saga? Erano tre film. Lui adesso lo sto doppiando io in una serie che però non è più presentabile. Sì, so, è diventato una specie di sì, bove. C'ha povera, sì, un bove. Ha detto un grassato. Sì, questa serie televisiva che aspetta, The Affair. Sì, ma lui fa il secondino, fa proprio il carceriere, il poliziotto penitenziario. Mi è capitato di ridoppiarlo. Ma non l'avevo riconosciuto. Ultimamente, sì, è... Ho detto, ma chi è questo? No, no, gli avevo più mettere una voce. Io ho dovuto farla tutta rovinata, perché non è presentabile. Era un ragazzo... Lì, secondo me, c'è stato un problema sia di alcol che di droghe. Sì, ma non puoi diventare così solamente per qualche hamburger, insomma. Cioè, no. Lui fece anche quel film bellissimo, serio, con Ian McKellen. Non so se l'hai fatto tu, Uomini e Dei. Su un regista omosessuale, sull'omosessualità, lui faceva l'amante di Ian McKellen. Se devo essere sincero, non me lo ricordo. Chiedo a Rachele al volo, dovrebbe essere Uomini e Dei, Dei e Uomini, adesso non mi ricordo esattamente. Comunque Ian McKellen era un film bellissimo, particolarissimo, dove lui prima ha fatto questo eroe, nell'immagine coltivo si doveva fare questo omosessuale fidanzato di questo uomo vecchio, questo regista poi realmente esistito. Ti arrivano tanti complimenti, Pucci. Oh, grazie. Grazie per tenerci compagnia tutte le domeniche. Una domanda per Pino: adesso che il posto di Wolverine è libero, perché non torni a fare film? Il physique tuo ruolo non manca, altro che Hugh Jackman. Tu dici proprio fisicamente? Sì, ma sì, devo dire che io devo dire grazie al mio corpo, no, Fabrizio, per quello che ho fatto finora. Si sa. Si sa, è notoria sta cosa. Non è che sei bravo, però bello, Apollineo. Esatto, Apollineo soprattutto. Apollineo tanto. Sono tanto Apollineo. Sì, io devo il successo a questo corpo. Insomma. Sì. Non puoi dirmi. È ora di dirlo. Sì, ma perché ho cominciato con tutte direttrici di doppiaggio, no? Con i direttori che mi soffrivano, sì, non mai chiamato, ma è solo chiamato quando la Roma vinse lo scudetto il primo film di lunedì. Sono andato dal mio amico Pucci, che mi ha fatto trovare la sala veramente giallorossa con tutti i tecnici, di tutto, sì, bandiere, una cosa non goliardica, no, un minimo, no, non nulla, esatto. Niente. devo aspettare un'altra volta che vinciamo l'Oscar, no, cambiai addirittura il nome della sala, perché la sala era la Sala Rossa, si chiamava. Io misi sopra un cartello dove c'è Sala Giallorossa. Esatto, fu una bellissima esperienza, meno male che io cerco di portarla con grande gioia tutto questo. Tu nel 2008, anche un'occasione per salutarlo, anche se ormai non è più con noi, hai sostituito Claudio Capone in Beautiful. Sì, ahimè, purtroppo. È stato anche un momento difficile per me, perché chiaramente non solo conoscevo molto bene Claudio, ma eravamo anche molto amici, quindi... Ma Claudio era amato veramente. Era una persona veramente deliziosa. La voce dei documentari che non si può... Cioè, si copia, non... lo copiano. Lo rifai. Fai le caponate. Esatto. Ma non le fai. E mi chiamò Mediaset per chiedermi se volevo sostituire Claudio, e io inizialmente dissi subito no, non si può proprio fare, non lo posso fare perché era un mio amico, non lo posso fare perché non farei tutta un'altra cosa, non lo posso fare perché sarebbe, non lo so, dico non mi sento assolutamente. E poi invece il funzionario di allora di Mediaset, che era Sandro Fedele, che stava su Beautiful, mi martellò di telefonate fino a che mi disse: guarda, io sono sicuro che Claudio sarebbe felice se fossi tu a sostituirlo e non qualcun altro. E allora a quel punto, beh, stai bene, l'ho felice. Io lo imitavo soltanto con la premiata ditta, era meravigliosa, troppo figo, andavo sull'Oceano Paci perché de figo basto io. Il regista era Walls, il regista del primo Frankenstein, dice Raffaele Torino, siamo molto attenti. Carissimo, reciteresti per me, per noi appassionati di doppiaggi, parlano con te, la mia poesia? Com'è? Sì, certo. Chi no, ma questa è una presa di chi talent avvelena anche te, digli di smettere, dice Mario Darimi. Assolutamente. Sono d'accordo anch'io, io non sono talent. Poi attenzione, c'è talent e talent. Sì, che c'entra, però perché sono pochi. Se il talent dai. È un attore bravo, ma ce ne fossero sempre. Demoni e Dei, il film, grazie alla mia grande redazione, Demoni e Dei, che è la doppiata Vittorio De Angeli. È stato allora Sefit, allora. Sì, era la Sefit. Sì, questo aspetto dei talent ne abbiamo parlato lungamente, insomma. Se è giusto va bene, sai, in America. Sì, in America i talent sono Al Pacino, Robert De Niro, Meryl Streep. Se il talent deve essere un ragazzo che esce da X Factor o dagli Amici di Maria De Filippi, no. Anche no, grazie. No, ma che non porta niente. No, non esatto. È che la gente lo va a vedere perché c'è XY che lo doppia. Sì, esatto, non fondamentalmente non cambia assolutamente niente. No, spesso lo peggiora. Esatto, a meno che non trovi una cantante come la Rossi che ha doppiato il film della Disney o Serena Autieri, stiamo parlando di grandi professionisti. La Rossi che sono e l'Autieri sono due fenomeni, due attrici e due io la Rossi cantante. L'ho trovata straordinaria come attrice anche oltre che come cantante. Lì è giusto, parliamo di attori, ma quando poi te trovi il conduttore radiofonico di turno che non c'entra niente. Sì. Non è neanche tra, devi fare il DJ, allora che so, chiamo il mio amico Albertino, lo dico perché è un amico e sono persone straordinarie, chiamo Linus, però fa quel mestiere all'interno del film, allora ci può stare, no, questa infatti, citazione. Poi è brutto fare nomi, ma sono film distrutti dal doppiaggio con i talent. Tu esci e dici perché gli altri non sono talent, uno è talentuoso, l'altro non è noi non abbiamo talent. Non sei talent, io li combatto anch'io, anche se sono anche conosciuto come attore. Vedo dall'altra parte, vedo che già i cugini di campagna sono già arrivati, country cousin. Dio mio, eccoli là, non hanno le zeppe. Non li faccio entrare, Ivano, con gli altri. E allora no. No, senza zeppe non li faccio entrare. Senti, amico mio, allora qui parliamo. Beh, arrivano tanti. Complimenti, io evito sempre di leggerli perché sennò si autoproclama. La gratificazione vincitore, poi è eccetera. Dobbiamo preparare anche i microfoni di qua. No, ci sono le sedie soprattutto. Lì sono quattro. Vabbè, ma ci abbiamo tempo ancora. Ancora qualche minuto con il nostro. Tu sei anche. Ma sei chiunque, tu sei Miguel Prado, personaggio della serie di Dexter. Non mi ricordo neanche chi è. Ma come non ti ricordi? No, te l'ho detto. Guarda, mi dicono dall'altra parte, se hanno fatto una faccia, Rachele, dimmi, tesoro, dimmi. Lui fa Mad Men soprattutto, ma sì, quello sì, è innamorato. Bisteccone? Vabbè, è bello lui. Sì, decisamente. Ci sta la voce infatti tua. Infatti cerco sempre di mimetizzarmi dietro a Bisteccone di Mad Men, perché John Hamm, tra l'altro. Non so John Hamm che voce abbia nell'originale. No, ce l'ha molto simile alla mia, in effetti. Però cerco sempre di evitare di farmi vedere, perché uno vede John Hamm, che è di una bellezza sconvolgente, poi... Dice, ma chi lo doppia? Pucci, per l'amor di Dio. Vabbè, Pucci, non mi sembra che tu esci da qua e ti mettono nell'indifferenziato. Lui tende a essere un po' più bellino, via. Sì, c'ha pure qualche anno in meno, secondo me. Sì, c'ha una decina d'anni in meno. Sì, ma gli hai dato una profondità importante. Anche mia moglie è molto presa, finita la serie è stata un po' così. No, devo dire, la serie è splendida. Bellissima. Al di là di lui, che è veramente bello ed è anche bravo. Sì, ci interessa poco, però. Ma la serie è spettacolare. Infatti non è un caso, ha vinto tanti di quei premi in America. Mad Men è fantastica, devo dire. Qual è la, tu ne fai tante di serie, poi, insomma, non è, ormai vabbè, quello è il rifugio. Una volta era nel soap opera, che portavano a fare massa di turni, eccetera. Adesso fortunatamente, beh, con Netflix, poi Amazon, le eccetera, opera, le telenovelas, sì, più Beautiful, ne sai qualcosa, insomma. Però adesso le serie sono... Dove ti trovi impegnato in questo momento? In quante serie sei coinvolto? In questo momento, lo sai che non me lo ricordo, no, vabbè, tante, Pucci, tantine, io so che so troppo, perché la mattina sei Dexter, il pomeriggio sei Mad Men, non mi ricordo neanche i titoli, quando mi chiamano le società privata, quindi sei quasi 60 anni, devi venire, allora c'è il tuo personaggio di Monkey. Ah. Dico, che è? Ma come? Lo fai da 12 anni? E non, ormai non, come dire, poi quando li vedo in faccia dico, ah sì, è quello. E invece di cartoni animati c'è qualche affezione particolare? Beh, ecco, Balù chiaramente, è stato un momento magico, perché io poi l'avevo visto da bambino, il primo libro della giungla, dove lo doppiava Locchi. Sì, grande Pino Locchi. Quando James hanno Bond. Fatto, esatto, il 2... cercavano una voce il più simile possibile a quella dell'uno, cosa che non hanno fatto quando hanno fatto il film. Vabbè. No, vabbè. E qui non lavoriamo più, esatto. E, quindi abbiamo fatto i provini per Balù e io ho vinto. Già questo fu una cosa che mi riempì proprio di orgoglio e di gioia, fatto di infinita. Avere la voce quella più simile di tutti a Pino Locchi, che per me è stato uno dei più grandi. Devo dire che i Pini sopra, leva me. Però io faccio, mi fa, gioco con i miei amici, con i miei colleghi, cioè Pino Locchi, James Bond, Pino Colizzi, Warren Beatty e quanti altri, Pino Rinaldi, che credo sia il più bravo. Pino è veramente per me è stato il più grande di tutti, più grande, concordo. Di tutti. Devo dire, ogni collega che viene qui concorda con il fatto Rinaldi, Pino era il più grande di tutti, uno Pino che Rinaldi. Passa da Peter Sellers, che io Sellers, penso ho avuto anche la gioia e il terrore. Beh, tu hai di dirigere col in gruppo 30, no? Sì, e c'era questo attore suo che c'era in questo film, e quindi era Rinaldi. Io facevo il direttore, un giovane direttore peraltro allora ancora, e venne Peppino, molto, molto devo dire, una persona di grande dolcezza, eleganza. E io mi sarei steso come sì, tappetino. Sì. Si pulisca su di sì, me. Sì, face, può anche muoversi, esatto, come diceva Troisi. Come diceva Troisi. E quindi si guarda, guardi anzi, signor Rinaldi, io sono qui, faccio il direttore del film, io le spiego soltanto la storia del film, poi non mi permetto proprio di... E lui invece fu molto carino, mi disse, no, caro Fabrizio, guarda, intanto dammi del tu, chiamami Peppino, perché siamo colleghi. E dice, poi no, se io ho deciso di fare questo film è perché credo che tu sia un bravo direttore, ti stimo, quindi dimmi le cose che mi devi dire tranquillamente, senza che problemi, cioè senza nessuna spocchia, senza nessuna... I grandi sono così. Ora, ovviamente io non ho detto nulla lo stesso. Eri già morto da un paio di minuti. C'era un patto tra me e la mia assistente, che quando c'era una piccola scivolata di Peppino, per non dirgli che era scivolato, lei faceva cadere una un cosa. Un rumore, è bellissimo, bravo, è molto elegante. Va bene, restate con noi, a tra pochissimo con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci, scusate, stavo salutando tutti i cugini, i nipoti di campagna, i nonni, tutti cioè, i parenti di campagna. Possiamo pure cercare di farli già entrare, sai? Sì, dai. Intanto stanno qui perché io voglio che il mio amico faccia quella cosa di qui sopra. Possiamo preparare già le sedie, sono quattro, ve lo ricordate, sono altissimi poi. Rachele, anche se faremo un po' di rumore, facciamo tutto in diretta. Scusa, Fabrizio. Ma guarda, qui è una festa, è sempre un happening. È molto bello il fatto che. È una tale meraviglia vedere i cugini di campagna. Che no, ma poi è una trasmissione. Beh, si parla come di voce, dire. Credo che loro con la voce, quella caratteristica loro. Poi hanno fatto veramente dei gran successi. Adesso uno ci può giocare, miseria. Scherzare. Sono i primi a ironizzare sul loro percorso, ma sono dei grandi professionisti. Ma accidenti, come tutte le persone di quegli quanto anni. Quanto li ho ballati da giovane, da ragazzo. Anche perché noi l'abbiamo vissute queste cose quando sono uscite. Sì, esatto, cioè, non dopo, quando erano sono andati di moda. Novità. È una novità, tu stai sulle macchine a scontro al mare e rimorchiavi con quei esatto, canzoni. Esatto, perché allora eravamo abituati ai Luciano Taglioli, a Claudio Villa, cioè a un altro modo di cantare. Improvvisamente arrivano pop, questi, con i capelli così, e zeppe, le robe che fanno tutta un'altra musica. Per noi era... Infatti, guarda, non vedo l'ora. Non vedo loro, l'Equipe 84. I Camaleonti, Dick. No, ma infatti, guarda, voglio cominciare a fare questo percorso con ogni settimana con un pezzo di storia che è rimasta grande, tale. Come vedi, io non so quanto canteranno quelli che hanno vinto X Factor, Ti lascio una canzone. Hanno già finito? Sì. Non ci sono già più. Esatto, cantano una sola estate, capito? Non c'è anche un investimento da parte delle case discografiche. Dice, sì, ormai si tende molto al one shot, fanno un disco, due dischi, poi spegniamo sta tournée finché si ricordano e poi arrivederci, grazie. Questo è un peccato perché ci perdiamo un sacco di gente per la strada. Io invece nel frattempo voglio sentirmi, che sento un altro operatore di cui non si parla mai, che nei vecchi film, Giorgio Capecchi. Che stanno a fare? Stanno cantando Roma, Roma, Roma. Ma che sono pazzi, come Roma, Roma? No, che c'entra, a favore del nemico. Ma è bellissimo. Sì, da fuori stanno armonizzandosi. È bellissimo, no, la lascia, rientra, è bello questa cosa. Ma possono entrare, stanno quattro sedie? Sì, una, due, tre, quattro. E allora, no, quattro, tutti e quattro di là. Devo scalare. Di prendere una sedia, Fabrizio, ciao, Ivano, ciao. Ma un entrare così, è belli così, dai, ma è bello così. Ciao ragazzi, ciao Ivanone. Ciao, belli che siete. Mi sposto di qua, aspetta che cambio anche cuffia. Ecco, scusate, ma è bello, questo capirete che è diretta, perché nelle registrate uno non fa queste cose. Chi è Giorgio Capecchi, Pucci? È un attore... Giorgio Capecchi? Capecchi era un doppiatore, era un vecchio doppiatore. Stiamo parlando di... No, torna a questo di microfono, puoi entrare qui, puoi lasciare il tuo, loro sono andati lì, si divideranno... Ah, Ivano, okay. Sistematevi, Madonna, sistematevi. Sempre i capelli neri, sono falsi. No, no, sono tinti. Oh. Ma assolutamente no, ma si vede che ma che no, io li conosco da 30 anni. Non mi azzarderei mai ma no. ipotizzare una cosa simile. No, ragazzi, no, no. Loro si circondano sempre da un paio di giovani per far finta che anche loro, insomma. Io infatti mi tingo un po' i capelli di bianco. Per... Sì, esatto, ma anche io mettiti sono seduto costretto. Che non ti si sente, Ivano. Noi abbiamo sporco col botulino. Sì, oramai, oramai, dai, è solo botulino qua. Avvicini più. Un lato che non ti voglio vicino. Dai, dai. Ciao a tutti. Ciao, ciao Pino, ti ricordi i bei tempi? Tazzino, ma guardate, scusateli, ma è bellissimo questo che avete di fronte a voi. A proposito di accentuazione, si stanno accavallando le cuffie. Certo, siete un grande groviglio lì. Eccolo, ma siete un grande groviglio voi. Guarda che si stanno attirando. Ivano! Un groviglio umano. È un dire che ci sta sentendo dall'altra parte. Quando andiamo in pubblicità, abbiamo ancora qualche minuto, vero? 28 oggi puntata veramente non anomala, normalmente è sempre osmotica, anche l'altra volta che c'era Enzo Vitabile, telefonate, caparezze, c'è sempre qualcosa. Il nostro amico qui è Fabrizio Pucci, uno dei più grandi doppiatori attori che abbiamo in questa nazione, la voce di Hugh Jackman, di tantissimi attori guardati al cinema, no? Assolutamente sì. Avete visto qualche film? Sì, lui è impazzito per questo. Sì, io sono rimasto a Frankenstein del 55. Ma tu sei giovane poi, tu sei un botulino, new entry. Botulino. Ma che botulino hai fatto? Miracolo della chirurgia, bro. Dai. Ma... Per esempio, tu è Beautiful Mind, l'avete visto con Russell Crowe, il film del matematico che impazzisce, eccetera. Ah, certo. Quello è bellissimo. Sei bugiardo sapendo di mentire. Cioè, io veramente, almeno tuo fratello sta zitto. Sì, perché sa che io mi accollo tutta la responsabilità. Beh, è un film gigantesco di Ron Howard con un grande Russell Crowe che è candidato all'Oscar. Insomma, un film pazzesco. Dove c'è la voce di Fabrizio Pucci che interpreta questa storia di questo grande matematico che tu conosci perfettamente, Ivano. Il matematico, io ho studiato un pochino di matematica grazie a lui, perché sennò io non avrei mai capito. È veramente un cazzaro. Io lo amo da sempre. Ma una cosa posso essere dita? Dica. Siamo entrati e Daniel ha detto... Daniel è la nostra voce acuta. Sì. Cazzo! Ha detto, c'era mazzo! C'è lui! C'è lui. Ha scambiato Fabrizio per chi? Non lo so, perché ha detto lui. Ha detto, ma è la voce di... Infatti, è giusto. Però in compenso io posso fare le voci, quelle delle telenovele venezuelane del tipo degli anni 80. Non è azzeccata una consonante da guardare. Posso fare le... posso fare la... cronaca, come si dice, posso fare il doppiaggio delle telenovelle anni 80. Beh, quelle hanno fatte però il trio, insomma, pure noi della premiata ditta, abbiamo fregato in maniera magistrale. Hai capito? Voi cantate in maniera migliore di noi, devo dire. Io posso anche fare Carmela, il nostro amore non può finire in questa maniera. Senti, però, Carmela! Carmela! Sei cane! Perché? Cane, sta zitto! Noi facciamo le imitazioni, se noi siamo i re delle imitazioni. Sì. Noi facciamo un'imitazione, per esempio, molto bella e vorremmo salutarvi con questa imitazione. Sì. Un'imitazione di buongiorno, proprio buongiorno, quella? Che di anima, tranquillamente. Sì. Com'è? Il divano ancora. Quale? Ci dà il diapason e salutiamo. Ma Niente, vabbè. Noi facciamo l'imitazione. Sì, caso. Quello l'hai detto. Sì. Noi partiamo con la canzone famosissima di un noto gruppo, i Pooh, che faceva così. Sai come faceva? Mi dispiace. Non ci sta. Vabbè, facciamolo, dai. Il noto gruppo siamo i cugini. Come salutiamo? Come salutano i cugini? Come salutano i cugini? Anima mia! La conosco. Ma quando avete preso questo? L'altro ieri. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò, dovessi odiare queste mura. Anima mia, nella stanza tua c'è ancora il letto come l'hai lasciato tu. Io vi amo, mi fate paura, mi fate. Meglio questa che la telenovela. Mi fate del terrore. Un po' di tempo insieme. Rachele, mi porti quella cosa che ti ho detto di darmi le parole di quella canzone? L'hai stampate? L'hai portate? Dove sono? Scusami, non l'ho vista. È bellissima questa diretta. Siamo anche in diretta Facebook. Attenzione, tu me l'hai portata, ma non me l'hai portata. Ah, c'è, hai ragione. Adesso se mi metti una musica, voi l'avete fatta in questo modo. Adesso le Pucci, poi parliamo anche un attimo, volevamo far sentire. Intanto facciamo sentire, no, l'abbiamo sentita questa adesso, per cui musica romantica, sentite cosa vi recita invece Fabrizio. Sì. Prego. Andava a piedi nudi per la strada. Mi vide e come un'ombra mi seguì. Col viso in alto di chi il mondo sfida. E tiene ai piedi un uomo con un sì. Era zingara. Nel cuore aveva un volo di gabbiani, ma un corpo di chi ha detto troppi sì. Negli occhi la paura del domani. Come un ragazzo me ne innamorai. La notte lei dormiva sul mio petto. Sentivo il suo respiro su di me. E poi mi dava i calci dentro il letto. C'è ancora il suo sapore qui con me. Beh, un'altra cosa, aspetta. Devo rimanere ancora le frame. Mamma mia. Ecco. Torna a casa tua. Sono le 3:30, ti prego. Non mi ricordavo. Ti aspetterò. Dovessi odiare queste mura. Anima mia, nella stanza tua. C'è ancora il letto come l'hai lasciato tu. Avrei soltanto voglia di sapere, non cercarmi. Che fine ha fatto e chi sta con lei, non pensarmi. Se sente ancora freddo nella notte, se ha sciolto i suoi capelli, oppure no. Una meravigliosa interpretazione. Ma per dire sati all'anima mia, fantastico. Beh, vabbè, no, da un esercizio di stile vero, perché voi a cappella strepitosi come sempre, e lui all'improvviso, io a cazzo. No, non ti ha fatto queste cose da quel burino divano, no, che l'hai fatta benissimo. Questo parlavamo di poeti, però prima parlavamo, così chiudiamo anche la parentesi bella, lunga, con il mio amico Fabrizio Bucci e con la voce, visto che parliamo sempre comunque, e voice anatomy qui, no? L'anatomia della voce, per cui è giusto analizzarla. Parlavamo di questo film che Ivano ha amato, per il quale lui ha cominciato a fare tutto, il matematico. Tutto, sì. Più che anche il cantante. Sì, sì, anche ha dato lo spirito di Leibniz proprio, vedete? Sì, non gli ha detto un nome che non ha capito, comunque. No, non lo sa. Sentiamoci questo momento bellissimo di Russell Crowe con la voce di Fabrizio Pucci in questo film bellissimo che è Beautiful Mind. Avanti. Ci picchia, lei deve essere molto importante. A cosa sta lavorando? È confidenziale. Hanno aspettato tutti mezz'ora. Cosa? La lezione. Oggi è saltato la lezione. Oh, beh, ho il sospetto che nessuno abbia sentito la mia mancanza. Il problema che ha scritto alla lavagna l'ho risolto. Oh, no, non è vero. Non l'ha neanche guardato. Non ho mai detto che i campi vettoriali fossero funzioni razionali. La sua soluzione è elegante. Sebbene nella fattispecie è in definitiva non corretta. È ancora qui. Sono ancora qui. Perché? Mi domandavo, professor Nash, se è possibile invitarla a cena. Se lascia il suo indirizzo alla mia segretaria, la passerò a prendere venerdì alle 8 e mangeremo. Bellissimo. Grazie. Bel momento, bellissimo momento. Fabrizio, hai capito come siamo combinati? Adesso tu te ne vai. Sì. Il tuo posto lo prenderà una principessa. Una principessa, ringraziando il cielo, che per farà da fortuna, anche perché tutto questo, questo maschiame esatto, dentro a questa sala, esatto, serve bisogna un po' ingentilire. Per cui io ringrazio di cuore Fabrizio Pucci. Grazie tantissimo, a te. Ti voglio bene, sei veramente bravo, un gran professionista e un caro amico. Grazie per averci regalato quest'ora insieme. Saluto ai congini di campagna che ho visto con noi con invece emozione, ci sentiamo tra pochissimo. Voice Anatomy, mi raccomando, tra poco. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Sanatomi. Bentornati signori, non potete capire cosa è successo all'interno di questo studio. Io intanto metto il microfono di fronte, anche la cuffia, puoi mettersi una cantante professionista, Cristiana. Buongiorno. Oh, sei emozionata Cristiana, no? No, però mi fa estremamente piacere essere qui con te. Tu non sai quanto fa me, Cristiana Ciacci, che voi conoscete perfettamente, che è una bravissima cantante, grande showgirl, ma soprattutto anche la figlia del grandissimo e indimenticato amico Little Tony. Soprattutto, sì. Mi ricordo al battesimo che tu l'hai battezzata, no? Sì, praticamente. Sì, tu già eri il grande Dio insegno, sì. Io ero lì, speravo pure io un giorno diventare sì, come me. Come te. No, tu sei peggiorato. No, non c'è stato. Ma dovete sapere che questi signori, adesso stava parlando Ivano, una famiglia Michetti qui, Ivano e Silvano. Se vuoi parlare, Silvano, che siete i due vecchietti della situazione. Qui. Sì, no, ti ringrazio di questa cosa, ma vecchietti per modo di dire. Ma sì, vabbè, sì, guarda, sì, ne parlavamo prima a microfoni spenti. La grande bellezza di questi gruppi, anche quella che era di papà e di tutte le persone di quel periodo storico che ancora solidamente resistono ed esistono, è grazie a una grandissima preparazione, grandissima professionalità e grandissima autoironia. Sono stati i primi a giocare con loro stessi nel modo di vestire, nel modo di esporsi, nel modo di darsi, nella disponibilità che hanno sempre avuto nei confronti di persone, e ne posso parlare adesso a cuore aperto perché io ero piccolo, nel senso, sì. Eppure ho avuto sempre ascolto quando abbiamo chiesto a papà, a Bobby Solo, ai cugini di campagna di partecipare a dei nostri spettacoli, a darci per cortesia la loro presenza perché dava spessore, dava tutto, sempre grande disponibilità. Addirittura questi signori sono venuti una volta, abbiamo girato in un paesino vicino Piacenza dove si è fermato il tempo, un pezzo di Shakespeare ha preso in giro di Romeo e Giulietta. e ci serviva un momento hip hop rap dove dal Shakespeare si passava all'hip hop, e noi chiedemmo ai nostri amici Cugini di Campagna di intervenire. Sono venuti da Roma, hanno girato con noi per 7 ore tutta la notte, hanno costruito il pezzo hip hop straordinario su Shakespeare, e arrivederci e grazie il giorno dopo, sempre con grande affetto. Ma loro sono e disponibilità. Sì, solo tanto 50.000 ci ha dato, ma no, me, ma proprio meno, no, pure meno. Andavano le lire. Le lire, capito? Esatto, capito. Ivano, mi presenti? Guarda, il tuo fratello Silvano, non c'è nessun problema. Silvano Michietti, lui conta. Sì, lui sì, sì. Io, poi il grande. Lui ha detto la programmazione sì. computer, fratello gemello, sì, di Ivano. E suona strumenti a percussione. Sì, sì, tum tum tum tum tum tum tum. Cazzo, sei, veramente non c'è niente. Si è stato poco sangue il giorno della nascita. Hanno preso un po' per uno ed è successo quello che è successo. Cristiana mia, non è, è un parto gemellare omozigote, per cui c'era un sacco solo e c'era posto per mezzo. E sono usciti fuori loro due. Comunque, Silvano, Silvano, ciao, te la dico velocemente, poi passiamo a analizzarli. Certo, sì, ma con un medico, vero? Vero, certo. Silvano Michietti lui conta, sì. Perché lui è ragioniere, lui è il nostro avvocato, è il burocrate, lui, perciò lui conta. Okay. Daniel, il grande Daniel, canta. Daniel Colangeli, la voce solista del gruppo, sempre quella più difficile da ritrovare. Sì, bravo. Silvano conta, Daniel canta e Tiziano cucca. Lui è mandata meglio. Poi invece col tempo, siccome sono passati un po' di anni, adesso cucca pure Daniel. E certo, ma è un bel ragazzetto, giovane, no, Cristiano? E io mi libero, io dico sempre parla, per lui quando parla sì. perde la sua intensità. Perché va su di acuto. Va subito su, hai capito? Arriva una ragazza, ciao, come ti chiami? Mica. E lui come risponde? Daniel, no. E finisce la storia. Vedete perché l'ironia, cioè, questa è stata sempre la vostra caratteristica. Sì. Mi dispiace che manca Alessia Navarro, che è l'altra autrice ed è appassionata. Lei, ieri sera, quando abbiamo sentito le canzoni che volevamo mettere per ascoltare, lei ha detto conchiglia bianca e ha cominciato a piangere. Madonna, cioè, siamo a sti livelli qui, capito? E lei ha 37 anni, non è che ce n'ha tanti. Certo. Voi avete abbracciato tantissime generazioni. Sì, siamo partiti dal 70. Io mi ricordo, ero bambino, andavo con mio nonno. Di che anno siete voi due, signore? Potete dirlo? Del 77. Sì, che, l'anno della, che non si sa se è il millesimo, sì, oppure no, se non è durante le contestazioni. Scusa, i cugini di Campagna sono degli anni 70, punto, basta. Sì, va bene, e allora, sì, hai ragione, io mi ricordo, ero piccolo, mio nonno mi andava ci portava a sentire i grandi gruppi, quelli famosissimi. Sì, sì. E un giorno mio nonno mi portò a sentire gli amici, i grandi amici Pooh, perché andavano per la maggiore. Certo. Allora noi entrammo, perché hanno cominciato prima loro di voi. Ma certo, dai, mi stai, guarda, non mi offendi me, se offendi pure loro. Ma che c'è, allora, Riccardo, che è più vecchio di te, più grande di te. Ma dai, ma non giochiamo. Chiamate queste Riccardo cose. Fogli, c'è sul mio telefonino. Chiama allora Riccardo, mio nonno mi porta. Io ero piccolissimo. Cercate il numero di Riccardo Fogli sul mio telefonino e chiamate Riccardo. Solo per chiedere solo per chiedere questa cosa. Te la dico io, te la dico. Sì, allora, mio nonno mi porta a vedere i Pooh quando c'era Riccardo, c'era Valerio Negrini alla batteria. E mi ricordo che mi diceva sempre: caro Ivano mio, bel nipotino, ricordati sempre questo. Io sono cresciuto con questi gruppi, i Pooh. E mi ricordo il primo bacio a nonna gliel'ho dato con la canzone. Com'era la canzone? Era questa qui. Partiamo tutti insieme. 3, 4. Mi dispiace, devo andare. Mamma cazzo, e siamo andati subito via e siamo partiti con i matti, non ci stanno cagapoccia tutti qua. No, però sono io, li amo, no, cioè, ma veramente. Anch'io, perché o li ami o li uccidi a sti livelli. Uccidono, non mi pare il caso, li amo. Per cui voi avete, tu hai cominciato a cantare con questo mi dispiace, grazie, devo andare, e noi siamo partiti e siete andati via. Sì, sì, sì. Okay. Il primo grande contratto lo ottenemmo proprio qua sotto, vicini, perché a stazione quando hanno cacciato via da Roma. Bravo. Quando finisce questo blocco non mi ci stanno a far capire niente. A 45 ancora 6 minuti, allora, prego. No, pure ma presto, no, ma ce ne abbiamo altri di minuti. Sì, però questo qui ve lo dico, è facile, perché mi ricordo che bisognava fare i blitz. Blitz con la L. Vicino c'era un ristorante che si chiamava Il Casale. Sì, quando ancora c'erano i cavalli. Per bravo, cui voi pensate quanti anni c'hai Ivano con Silvano. C'era un casale, non c'era un ristorante chiamato Il Casale. Via Flaminia. Certo, c'era pure zia. Entrammo lì e chi erano? Gianni Migliacci, Gianni Morandi, sì. Franco Migliacci, Bruno Zambrini, sì. Gianni Miccia, Renzo sì. Arbore, sì. Gianni Boccopagni. C'era tutta l'elite maggiore della RCA. Allora c'è Riccardo Fogli in diretta. Bene. Riccardo. Ciao Pino. Ciao Riccardone. Vedi? Tesoro, siamo qui in diretta su Radio 24 per Voice Anatomy, la trasmissione che io spero averti ospite quanto prima. Allora, qui vicino a me, a parte c'è Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, che ti saluta ciao, e ti abbraccia. Tantissimo, ciao. Alla mia destra c'è un quartetto di assassini, di cui i due fratelli gemelli sono Ivano e Silvano Michetti, leadership dei cugini di campagna. Loro hanno detto che tu eri già grande quando loro, prima dico, loro dovevano ancora cominciare, erano bambini. Allora io mi sono offeso, ho detto no, chiamiamo Riccardo perché non è così. Per cui Riccardo, stanno dicendo delle cose non giuste e non si dimenticano che siamo tutti amici. Allora, di qualcosa di vano ai cugini di campagna. No, cioè, ma è vero, sono pischelli loro. Se ci fai caso, sono vestiti come 50 anni fa. Sì, esatto, sono vestiti come 50 anni fa. Perché sono gli abiti che non fanno il monaco, ma è il monaco che fa gli abiti. Ho capito, ma tu sai che se Riccardo fosse più sì, ma se tu fossi più grande di Ivano, vuol dire che loro si portano con grande disperazione gli anni. Riccardo, no, tu non hai verità. Dimmi. Io ho 70 anni fra qualche mese. Sì. Tu c'hai 70 anni fra qualche mese. 70 anni fra qualche mese. Stamattina ho corso un 9 chilometri, sì. Ah no, io corro per esempio a 9 all'ora. No, sì, magari. Che c'è un'ottima cifra, a dire la verità. 9 all'ora ti viene un infarto dopo 10 metri. 9 all'ora quando mai? Con quella pancia. Allora. Bravo, così mi piace. Pancia. Finalmente esce fuori l'amicizia e l'osmosi fra i gruppi. Uomo di sostanza. Di sostanza. Diglielo Riccardo quando ero in aereo che t'ho cantato le canzoni per cui mio nonno mi fece innamorare dei Pooh. Ma te la ricordo. Ecco no. Com'era? Grande ammirazione, grande ammirazione. Era sempre. Aspetta che te la canto. Aspetta. Mi dispiace, devo andare. Te la ricordi, no? Ma come te la ricordi? Ma che dici? Mi ricordo con tanto affetto, ragazzi. Sei grande, grande Riccardo, Riccardino. Io ti ringrazio, ti ho disturbato perché a parte l'affetto che tu sai. Sono a fare la spesa alla Coppa, se mi interessa. No, inviato speciale. Vedi che lui già in pensione. No, ha finito gli stadi l'altro giorno, hanno finito. Faremo soltanto 4 stadi. Io ho detto, ma quando mi fermeranno a voi? Mai. Che avete fatto un'avventura straordinaria, ma ci risentiamo con molta calma, amico mio, grazie. Un abbraccio a voi forte tutti. Riccardo, ciao Riccardo, ciao Riccardo, ciao Ricca, un bacio a te e alla tua signora. Beh, hai visto, bisogna stare attenti quando si parla. No, ma io devo dimostrare. Se adesso dici un altro nome, ma io pio il telefono e lo chiamo perché io sono amico di queste persone. Ah sì? Sì, ah, sì. Certo, mica sono amico solo tuo e mi vergogno di questa cosa. È meglio che la dico questa, se no ci rilanciano tutti. No, esatto, io devo lavorare, mi possono dire per te Radio 24 finisce qui. Da quest'altra parte invece Cristiana, e c'è anche Angelo, ormai un duo d'eccezione, insomma voi siete il cuore, le Tony Family. Ci avete tutti e due i microfoni comunque, Cristiana, ce ne sono due, noi non badiamo a spese da questo punto di vista. Ci siamo, io voglio parlare di voi e di papà, ovviamente questo è un percorso anche con questi pazzi furiosi qui al mio fianco, perché insomma più o meno le strade sono parallele, sono quei grandi che non si dimenticano. Ne parlavo prima con Fabrizio Pucci, adesso tu non ti ricorderai mai chi ha vinto X Factor, oppure Te lascio una canzone, oppure quell'altro, tutti questi talent. Anzi, sicuramente se loro fossero nati in questo periodo storico, magari sarebbero stati mandati via dopo la prima puntata, no? Perché non era un gruppo magari che poteva. Ma scherzi, tu pensa soltanto Lucio Battisti, che si presenta X Factor, che non c'ha voce. Che non c'ha voce? Esatto. Ma noi per esempio. Sì, ma voi avreste vinto, vabbè, mo mi sta di questa cosa. Guarda, ma che dicevamo sei qua, tranquillamente ma con una canzoncina. Io sto di una cosa romantica, bella, a tuo favore, tu la devi distruggere con la tua forza. Ma è guarda così, che è forte. È così. Anche noi siamo romantici. Noi sentire. Abbiamo vinto, il nostro primo successo è stato. Parla nel microfono, che ti sento il nostro, il nostro grande. Ecco, nostro così va meglio. Deve cantare pure lui. Il nostro grande successo iniziò con una canzoncina fatta lì, per lì che ancora la cantano oggi a quel famoso cosa. Ma tu perché parli, ti ricordi manco più i soggetti delle cose che stai no, a dire? Dico, perché parti a bomba e ti scordi il discorso da dove è partito, Iva. E sono partito da questo. Come no, tu sei partito. Come faceva? Come faceva? Come faceva? E la fattoria. No. Ia ia oh. No, ma questi sono bruciati. C'è chi canta mia mia. Ia ia oh. C'è il suo capo. Capo. Capo. veloce, che bello, bello, bello, c'è la scimmia, scimmia, no, no. Scimmia, c'è chi canta, canta, canta, nella vecchia fattoria c'è pure il segno. Ma tu ti rendi conto se sono preparati? Sì. Sono grandiosi. No, non è niente di preparato, e questo è il grave. Vedi, qualcuno dice: Pino, questi quattro ti hanno portato via la trasmissione, vai a casa, lascia loro. Ci hai capito? No, quello mai, dai. Allora, carissima Cristiana, incontravo spesso qui a Rimini il mitico Little e mi trasmetteva tanta allegria, un evergreen, dice Mario. Cari cugini, grazie ai balli lenti con le vostre canzoni facevamo innamorare le belle svedesi che calavano qui d'estate. È vero, questo avete fatto nascere un sacco di figli. Bravo, perché me ne mettete una bella. Ah, dobbiamo andare in pubblicità? Adesso, subito? Ma è la pausa lunga? È quella dopo, vero? Allora, non ascoltiamo niente, me li tengo fra un po'. Torniamo con calma. Vedi, piano piano, ma lo senti? Le voci, hai capito? Io sono l'opposto di lui. Un'altra voce, c'è sta lui che fa anima, io faccio anima mia. Lui, come può essere? Io vado giù qualche ottava, comincia un po', 3, 4. Dai, dai. Anima. No, devi partire pure su quella su. Ma sì! Anima mia! Bella, torna a casa tua. Sì, ora gli esclusi dai cugini, i nipoti di campagna. A tra poco, vuoi sanatomi? Sanatomi. Eccoci di ritorno alla mia destra, i cugini di campagna Silvano e Ivano Michetti, ormai lì i leader storici, insomma i fondatori di questo gruppo, con la new entry Daniel Colangeli che è la voce giurista del gruppo, e Tiziano Leonardi che canta e suona le tastiere, alla mia sinistra The Tony Family, Cristiana e Angelo. E senti, che c'è una canzone che ho sentito che cantavi con papà, una canzone di Natale. Natale nel mondo. Posso sentirla un pezzettino? No, certo. Che mi dà un po' di brividino. Alessandro, ce l'hai? Eccoci qua, allora sentiamoci un po' la voce di Cristiana insieme al... Ecco, non devo perdere tempo perché Alessandro ha 2000 cose da fare, veramente. Meno male che sono uno che le parole non gli mancano. Io va, dammi una mano per quando sì, mi vedi in difficoltà. Alessandro, ecco, tanto non ci sente nessuno, ma basta. Si chiama Abdul di nome. Perché? Perché c'ha la barba. C'ha la barba, ma che c'entra? Iva, tu c'hai dei capelli inguardabili, dai, sentiamoci sta canzone, vai. Ecco, sentiamo questo bel momento. Questa notte non riesci a dormire e abbracci il tuo peluche. Sgrani gli occhi, poi guardi sempre l'orologio lassù. Ma ecco, senti i suoi passi, scende fisso sotto il camino. Natale vicino, buon Natale anche a te, dall'altra parte del mondo, tutti insieme abbracciati. Che emozione è sentirti con papà? Beh, tra un po' è Pasqua, però a me questa canzone, come tutti i duetti che facevamo con papà, ovviamente sono fuori dal tempo per me, quindi... Ma sono fuori dal tempo per tutti, perché sono... guarda, poi papà, questa canzone Cuore Matto, che mi sembra una, proprio divertente della sua vita, ha sempre scherzato col suo cuore e con quella canzone. Ed è sempre stato un giovane, cioè proprio gli Highlander, no? Quelli densi, gli devi tagliare la testa per vedere se veramente è un Highlander, vedere se vola con il film in cielo. Ma sai che quest'anno fa 50 anni Cuore Matto? 50 anni. 50 anni da quando è stata presentata al Festival di Sanremo. Pensa, sì. Anima mia ne fa 62. No, no, no, no, no. Quella siete, Anima mia è di quando è? Aspetta, è il 73. 73, sì. Ci siamo comunque, no, scherzando ridendo, quasi 50 anni. Mi ha commosso adesso Tony. Tony. Perché è nel cuore. C'è ancora, sono quelle persone che non se ne vanno, non te ne vai, no, perché no. Hai lasciato un segno indelebile, a parte nel cuore dei propri cari, ovviamente. Sentire queste parole, a parte sì, Cristiano, ma le sentivo come... era qui, bellissima, la cantava in un modo bello, sentito. No, ma poi lui è strepitosa, poi pensate, quando incise Riderà, che qualcuno gli ha detto: ma non è male sta canzone, venderà milioni di copie, gli ha detto Modugno, insomma. No, no, era di Cuore Matto. A Cuore Matto gli ha detto Modugno. Quando ha finito, la prova al teatro Ariston, insomma, a Sanremo, e si è risieduto in platea e si è sentito bussare da dietro, e una voce gli ha detto: questa canzone venderà milioni di copie, ed era il grande Domenico Modugno. E che prima si vendevano queste copie, poi non si sa dove andavano. Uno pensa che quei cantanti con lei sono miliardari, ma non era così, perché bisogna vedere un attimo dove andavano i diritti d'autore, le edizioni e quello e quell'altro. Si stanno preparando per sentire questo vociare, sono i Cucini di Campagna che preparano degli omaggi, perché loro sotto il cuore. Voi parlate di compleanni, allora io devo pensare a una cosa al volo così, perché è bella Cristiana, l'amo. Pure Angelo, no? Angelo l'amo un pochetto. Sì, un po' meno pure io. Va bene pure per lui. Ti voglio bene, da morire. E che hai preparato? Visto che sono 50 anni. Come si fa a non fare un augurio a questo Cuore Matto? Possiamo? Sì, perché siete liberi. Happy birthday, happy birthday, tanti auguri a te, tanti auguri a Cuore, tanti auguri a Matto, tanti auguri a te. E noi ci uniamo a questi auguri. Grazie. No, ma voi i concerti li fate così adesso? Così, se risparmi sul service, è fenomenale. C'è un Cuore Matto di sottofondo? Vai, alzala. Pensa solo a te. Eccolo. Che bello. E non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Che bella storia. Cuore matto, matto da legare, che crede ancora. Io proprio quest'anno ho doppiato un film che era Elvis e Nixon, l'incontro, e ho doppiato Elvis Presley, vabbè, interpretato Michael Shannon, e c'è stato un momento, io ho detto: a me sembra Little Tonio, cioè il contrario, perché in effetti loro si sono ispirati a Elvis, invece sembrava che Elvis, l'attore, si fosse ispirato più a Little Tony che a Elvis, perché era molto più scacciato, più divertente, più ironico, no, certo. Strepitoso. Ma voi di successi ne fatti veramente tanti. Sì, però questa di Tony la devo dire, perché dilla, eravamo qui alla fattoria con Barbara D'Urso a fare questo reality, e fu un grandissimo successo, perché non so per quale motivo, e fu un'annata molto buona, e fu la prima volta che un reality, tra tutti i reality, non soltanto Fattoria, Isola dei Famosi, Grand Brothers, tutte queste cose, Grand Brothers non è male. L'hanno mischiato con l'inglese e il francese, perché volevo dire è Grande Fratello, Grand Brothers. So, veramente una cosa brutta. No, io ci ho pensato, l'invito, non so sicuro. Ho detto: invito pure Cristiano, mi salva la situazione con Angelo. Comunque, chiama l'infermiera. Silvana e Ivani portiamo a casa con qualcuno. Schiave 118. Eccoli, stanno arrivando. Insomma, allora vuoi ambulanza vera? No, questa no, non fanno ambulanza loro con la voce. Non la posso fare. Silenzio! No, io, silenzio. Eccola. Ecco. Ma poi quando fate il provino per la voce acuta, si fate ambulanza. Ambulanza di una mia meravigliosamente. Loro sono andati via perché sono scappati. Cioè, non è che avete cacciati via voi. Loro regge la voce leader, insomma, la voce acuta a sé regge netto due, poi ve manda. Sì, immediatamente. Tu sei della bomba della natura. No, ma questo è vero, questo non è finta, capito? No, non è vero. Ma sono stati tutti, ma devo dire che anche lui è bravo. E poi sono tutti belli e biondi. Non ha bisogno né di mollette né di tappi, sai, Teo. Per fare voce acuta sempre con te stringere i padri, un'esperienza vecchia. C'erano dei manetti che... No, la poesia, uno dice: mannaggia. E allora? Abbiamo un contributo da per i cugini? Questo non lo so neanche io, prego, vediamo, sentiamo un po'. I cugini non so se son pazzo o sono genio, faccio il selfie, mo sì, alla che pechenio, non mi fumo canne, sono anche stenio, io non faccio brutto, ma l'ordinatore tangenziale, andiamo a lavorare, scappo poco col mio cane, andiamo a comandare, già parte nel locale, andiamo a comandare, faccio acqua minerale, Qua non si serve a nessuno, Pino. No, manco i moderni. Se si risveglia Tupac e Notorious B.I.G. ci mandano una bomba atomica dentro gli studi. E allora successe alla fattoria. Che succede? Abbiamo preso due minuti, sono tre trasmissioni. Ci fu oggi un gioco dentro reality dove tutti facevano del tutto. Sì. E ci fu il gioco del indovina chi sono io. Sì. Era quello famoso che uno rispondeva a una domanda in circolo. Devi sbrigarci, sono 15 secondi, dobbiamo andare a proprio il telegiornale. Diceva, che sei un cantante? No. Ah, che sei in inglese? No. No. Bisogna. E Mastelloni, sì, che Leopoldo giocava, diceva sempre no. Alla fine ho detto, vabbè, è inglese? No. No. Canta canzoni? Sì. Sì. In inglese? Sì, sì, sì. E come? Ho fatto, cavolo, canta canzoni in inglese? Non può essere. Deve essere per forza. Nessuno ci ha indovinato. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, Voice Anatomy, alla mia destra sempre tutti i cugini di campagna in tenuta, eccoli qua, no, tenuta normale, tenuta a cavo. Oggi in borghese. Oggi in borghese, senza zeppe, e Cristiana e Angelo, eccoci qua. Allora, parlavamo, volevamo aprire con questo inedito vostro, che papà non è riuscito, non ha fatto in tempo a cantare. Scritto dal grande Danilo Amerio. Danilo Amerio. E non ha fatto in tempo lui a cantarlo, e quindi è stato il nostro primo singolo, lo abbiamo cantato noi nel suo pieno stile country. Ah sì, ma rispettato quello che avrebbe voluto. E sì, abbiamo fatto anche il video con la Cadillac, come faceva stile papà, americano. Stile americano. Siete proprio andati a fare i maranza come babbo. No, quella maranza, dai. Ecco, dai, stile americano con la Cadillac. Ma noi siamo nati americani. Lo so, siete americani dentro. Mi dispiace, non avevo il numero di Bobby, perché altrimenti sarebbe stato carino sentire anche lui. Va bene, allora ce l'ascoltiamo. È pronto Alessandro Semprelli? Eccolo. Questa grande strada che mi porta a New Orleans cancella ogni ricordo dei tuoi occhi e dei tuoi jeans. 500 miglia più lontano, non lo so, vita non ho già più voglia e più ne avrò. Mississippi River, vedo dalla mia Corvette che plana sull'asfalto proprio come un vero jet. All'orizzonte nulla, solo il sole se ne va, mi godo la nel jukebox. Poi mi si avvicina e dice I love you cowboy, forse me ne andrò domani, that's okay. Ma senza di te, senza di te, com'è strano, ma sto bene senza di te. È bella questa cosa, senza di te è strano ma sto bene, è giusto, è vero, non finirà mai di mancare, nessun genitore può, non smetterà mai di mancare. Tuttora io penso sempre di chiamare mia madre quando c'è una bella notizia o qualcosa da dire. C'è un attimo in cui ci pensi, mi capita mai di pensare alla persona cara che magari non c'è più per un attimo e avvertirla di qualcosa. C'è sempre, credo, nel cuore di ognuno di noi. Non siamo esenti a tutto questo. E questo è il primo singolo. Sì. Ma poi è uscito un album, qualcosa adesso c'è? Cioè abbiamo... sì, abbiamo un disco in distribuzione. In distribuzione, si parla con più entusiasmo, però Angelo sembra che te ne frega niente. No, ma che scherzi. Come si intitola? No. È una raccolta con dei brani appunto di Tony, quindi classici di Tony, Cuore Matto, Riderà, eccetera. E poi ci sono alcuni dei pezzi inediti. Dei pezzi inediti nostri, esatto. Qui non c'era neanche una prova di papà. papà all'interno di questa canzone, no, peccato. Purtroppo no, però ho altre tracce qui dove ci siamo noi che cantiamo e Tony che interviene, come nei nostri concerti, perché noi facciamo, sì, i concerti dove Tony interviene su un lead wall e quindi canta delle strofe, dei ritornelli. È bello, guarda, io sto facendo uno spettacolo bello, che è proprio su questo, sulla televisione che non c'è più, dove riesco a duettare con gli ologrammi, con fare una gara di barzellette con Bramieri, intervistare Mastroianni, ballare il tuca tuca con la Carrà con un effetto speciale sordi, perché per far conoscere anche i ragazzi che riempiono magari il teatro chi erano questi qua, che magari qualcuno gli è sfuggito. È molto allora, bella questa cosa che dici, bella, però non ce ne frega niente. Non sa parlare di Tony, no, perché era, volevo valorizzare, si promuove, si può fare la sua promozione, volevo, no, non lo so, non c'è in giro in questo momento lo spettacolo, è per dirvi quanto sono anch'io affezionato ad ascoltare quelle voci che ci hanno accompagnato, che deficiente. Io volevo fare un escursus sui grandi successi di Cucina in Campagna, invece no, faccio una telefonata all'amico che non ha fatto manco una canzone, preferisco. Mi fai un bel percorsino di questi nostri cugini di campagna? Io volevo sentire adesso, dopo Anima Mia che l'abbiamo ascoltato, un'altra donna, eh? Ecco, abbiamo... eccola, no, eccola. Avevo detto dal vivo. Che la vuoi sentire con un pezzetto, dai, senti così, di... un pezzetto qui come il disco e poi il com'è, disco, dai, com'è, dai. Quello che non ha capito lei, amore, amore, amore, amore mio, un'altra donna ha preso il posto tuo. Risparmiano sui strumenti. Amore, amore, amore, amore mio. Che bravi che sono, no, aspetta, ma voglio bravissimi. Sentire tutto il gruppo quando entra, questo è l'inizio, è l'intro, no? Questo sì, adesso poi... parte, certo, beh, i brividi arrivano qua, ecco. Avrei voluto una 3, donna. 4, 5, 6, 7 e finì Roberta. La seconda strofa, certo, ancora. Lui sempre. Ma sai che questa. Ma chi l'ha scritta regalare? Questa? Chi l'ha scritta? Io, la seconda strofa parla sempre di sesso. Ecco perché. Problemi? No. No. No, no, no, non lo so io. Prima è poi, la punto, morale, cioè avrei voluto un'altra donna, avrei voluto un'altra mule. Punto. Punto. Finisce la canzone, si esatto, capisce? Certo, invece no. La seconda, no, strofa gli dai sotto. Gli parli d'amore. Certo. Tutte le cose. Adesso te la fai. Adesso te la fai. Però prima della terza c'è il ritornello. Ma ho capito, sentiamo il ritornello per l'amor di Dio. Grazie. Amore, amore, amore mio. Raddoppiano pure il disco. Una donna ha preso il posto tuo. Amore, amore, amore, amore mio. L'entusiasmo di questi signori bisogna rubare. L'entusiasmo, io vi faccio un applauso. Ci divertiamo. L'applauso, l'entusiasmo, che è una cosa pazzesca. Senti, poi ce ne sono tantissime, però anche un'altra donna è del 74, addirittura subito dopo Anima Mia. No, no, no, mi sbaglio. 75, perché ho sbagliato 74. Un anno, ho capito. Noi, mi ricordo, veniamo da Anima Mia, grande successo. Sì. Che fai come seconda cosa? Giornalisti, certo. Ma tranne uno. Chi? No, senza parlare. Vivo, no, no, no, non facciamo nomi, Ivano, perché è brutto. Siamo in allora, radio, successe che questo Mario Luzzatto Pizzi, ecco, ci dice. Ho detto. Vabbè, ma l'hai detto, vabbè, ma sono sbagliato. La miseria. E allora successe che Mario Luzzatto disse. Sì, non sa dire il nome, perché è complicato. Complicato. Certo, per lui si chiama così, però esatto, dai. Il problema è suo, dai. Successe che disse, no, questo gruppo, sì, è bravo, ho scritto questa Anima Mia, ma vedrete che adesso non sapranno più cosa scrivere. Esatto. E nel giro di 3 o 4 mesi ce li saremo ben dimenticati. Ebbene no, ebbene no, caro Luzzatto Fegiz. No, no, no, no. Allora io volevo chiamare Luzzatto Fegiz per farlo venire ospite, non credo che sarà più disponibile. No, fatelo dire, è famoso in tutta Italia, perché tutte le serate dico questa cosa. E iniziamo con questa grande canzone, come seconda d'Anima Mia, che faceva Ricordi lui al diapason. Sì. un tempo ti tenevo tra le braccia. Niente, non si fermano. Innamorati, innamorata. Oh, Dio, c'ho paura perché conosco tutte, ma è vero, innamorata, altro successo. Rimanete qui con noi, andiamo un attimo in pubblicità. Sì, non fate casini, a tra pochissimo, poi sanatomi. Voice Anatomy. Eccoci qua, sempre Voice Anatomy al mio fianco, i cugini in toto di campagna, Angelo e Cristiana Ciacci, i Tony's Family, che stanno portando ovviamente in alto ancora il nome. Non ce n'è bisogno, nel senso che resterà per sempre quello di Little Tony. Non, beh, quello sicuramente. Io poi non sapevo come chiamarlo, si chiamava Little Tony, pure Bobby solo, no, non so, chiamato, io mi vedi, l'ho chiamato anche Hitler Tony. Hitler Tony, no. giuro, oh, ma dai, ti giuro, in un paese veramente, no. Vero Chris? Sì, sì, ci raccontiamo. Oppure Click e Tony. Click e Tony è bello. L'hanno chiamato anche Click e Tony. O Click e Tony. Sì, ma poi sbagliano certe volte anche le canzoni. Mi raccontava Fabio Concato, dice, no, tu non mi ha fermato, stavamo in Umbria, ha fatto che niente, sei Concato il cantante? Io ho fatto sì. Che ma canti quinto piano? No, quella veramente è Guido Piano. Di quinto. Che sei cosa, mi canti Roma Capoccia? Quello è Venditti? No, se sbaglio. Quello noi ci chiamavano il quartetto del trio. I Marchesini. Cioè, perché, ma te succede? A voi vanno mai confuso con una canzone, qualcosa? No, allora ci sembra Campagna. Campagna. Noi la Campagna, basta. E io signora Little. Signora Little. Signora Little è bello, non è male. Insomma, a Fergus Regis, vabbè, eccetera. Luzzato, vabbè, lasciamo stare. Gli avete dimostrato che siete riusciti a dimostrare. Certo. Ha errato la previsione. Però dopo addirittura un altro gran successo, che è stata un'altra donna. Quanti dischi si vendevano all'epoca? Ma all'epoca parecchi, perché io mi ricordo che, insomma, parliamo di milioni di copie. Milioni di copie, perciò che concerne i 45 giri. Però eravamo preoccupati perché alla fine degli anni 70 i 45 giri cominciavano a non stamparli più. Pensa, sono allora, usciti adesso di moda sia l'LP che il 45. E mi facevano così, io capivo questa cosa brutta. Un simbolo dei 45 giri, sembra. E allora uscirono, perciò 25 milioni di copie vendute con Anima Mia, ma cantata adesso non ce l'ho presso in questo tutte le lingue fastidio. No, ma cantata da Frank Sinatra, dagli Abba, da Dalida, io ho tutte le versioni. Sì, sì. E non me l'hai portata? No, ce l'ho nella pennetta, guarda che disgrazia. Ce l'hai lì nella pennetta? Mi sa di sì, lo sai. La pennetta l'avete consegnata ad Alessandro? No, la pennetta e no, perché lui ha detto non c'ho il nanetto per scrivere. Come il nanetto? No, vabbè. No, non ci sta. Mi fanno chiudere sta trasmissione, Cristiano. No, vabbè, senti, mi rigiro, scusate spalle, ma mi giro da questa parte. E riprendete un attimo. No, ho capito, io devo fare ancora fino a luglio la trasmissione. Allora è successo. Ma no, finita la storia. Ma no. Io non ci credo che ha cantato Frenzinata agli Abba. Allora, alla prossima pausa, chiamo Ornamento e ti faccio vedere. No, sta cercando Rachele che niente. Ed è vero che c'è Frenzinata che canta Anima Mia in inglese, come canta Soul Mine. Ah, no, c'è la penna? C'ho la pennetta. Allora, dagliela, fagliela dare. E il nanetto dove sta? Non ti preoccupare, no, dai, basta. Non parlare romano, la gente poi. Sicuramente. Non ci sembri un marchese decaduto. No, ti devo dire io a te dopo dove prenderla. Beh, ma ci sarà scritto qualcosa sulla pennetta? No, perché poi se la va a devi prenderla nella pennetta. Che fai, dici? Niente, mi alzo perché faccio un po' di giochi. Va bene. Voglio parlare. Dunque, qui diceva Maria Laura, 41. Cristiana, papà era nato nel 41? Sì. Dice sì, nel 41. Tu non mai sapevo. Tutto quanto questi quattro artisti dove li metti stanno bene, tengono la scena. Io pure al San Filippo Neri invierei questi quattro artisti. Allora noi, hanno cantato questa canzone Frenzinata, gli Abba e Dalida, tutti i primi posti in Francia, ma era il periodo che voi stavate pesanti, era di droga pesante, molto molto 70. E vanno detto che qua la canzone la cantava Frenzinata. No sono le versioni vere in inglese, in francese, cioè noi il prossimo blocco e in svedese. Abba svedese, Abba. Certo. Abbastanza la voce solista è quella di Frida. Beh, sono certo. Gli Abba, poi sentirai Little. C'è anche Little? No. C'è appunto Frank Sinatra che canta in inglese, certo, e te sbaglio. questi sono gli Abba. Questa me la dai perché la sto cercando. Questo è un primo posto in Germania. Certo. Guarda, questi erano gli Abba quando ancora non capivano quello che facevano. Frida. Frida. Frida. Trova Frida. Non è Frida questa. Sì, è Frida. Ah, perché noi abbiamo la terza strofa. Sì. La terza strofa. È lei. Sì. Fammi sentire. So liberi joy et livi mina tramma. Questo è in svedese? Sì. Tanto. Però non è la strofa che abbiamo noi, perché io ho fatto fare un pezzettino a tutti questi, perché sennò diventava... Tu sei andata frenzinata agli Abba e gli hai detto mi cantare il pezzettino, ma sta zitto. Sta zitto. No, va bene. Falla finita, ma per favore. Allora, ti dimostrerò... Questi sono gli Abba comunque, stanno cantando, anima mia. Sì, però adesso... Quella che c'è di... Eccola, quella che sta qui. Ma ho capito, uguale. Lo so, però. Zitto. Però non sta. Iva. Vai da là. Live c'è scritto. Dalida in francese, prendi la versione francese. Adesso è tutto certo. Live, la sta trovando adesso. Sì, sì, con la Brinetta. Ma questa è ovviamente scherzo, questa è una cosa incredibilmente. No. Non la sapevo. Ti spiego pure perché c'è una finalità. A certo. Parte, io sono coeditore, ma coeditore ai 424esimi, sai. Sì, no, c'è il telefono che hai lasciato acceso. No, non preoccuparti, mi scuso perché. No, no, è la gente di Frenzinata che ti ha denunciato. Ti ha denunciato. Sicuramente quello, è arrivata la telefonata, sapevo. Guarda, telefonia, mi sta chiamando proprio. Ti sta chiamando proprio per di fare la finita di stronzate. Dai. Cazzate. Esatto. Vabbè, allora... meno male che c'è Cruciani a Radio 24, mi ha sdoganato un po'. Va bene. E allora successe che la coedizione della parte. Delle parole 10-5-5-4 sì. È dal grande editore francese Gilbert Murwani, che era il grandissimo editore francese anche di Polanca, anche di Dalida. La prima volta la prese e la fece cantare a Dalida, e nel 74 sì, 74, ma a Frenzinata 70, come siete arrivati a Frenzinata? Murwani, capito? Perché sempre lui c'era, Polanca di mezzo, c'era James. Come si e come chiama? Si intitolava in inglese? Soul Mine. Any My Dear. Any My Dear. Yes. Beh, Any My Dear. Welcome back to here, una cosa del genere. Ma cuore amore proprio. Sì, sì. Senti, fammi sentire un po' di Little. Un po' di Little. Dai, fammi sentire Tony. Un po' di Little, un po' di Little Tony. Senti, andiamo su una canzone che io ne ho amate tante. A parte che a me piaceva La Donna di Pic, per esempio. Mi piaceva da morire, non so se ce l'abbiamo. Che era pure la sigla dello sceneggiato del tenente Sheridan di qualcosa, La Donna di Pic. No. No. Qual era la sigla? C'era, a parte Lobot. Una sigla era Lobot. Lobot, sì, di, ok. Di Profumo di Mare, no? Profumo di Mare, sì, sì. Questa ce l'ascoltiamo un attimo, ce l'abbiamo, eccola qua. Sognare, forse sognare. Che bello avere queste sigle che poi era proprio un momento di gran successo, poi, perché le ricantavano, non era quella sigla originale americana, ma ci permettevano qui di ricantarla. Per tanti anni è fatto da colonna sonora di questo telefilm. Sì, sì, è questo. Lobot, pensi a papà, immediatamente su sta nave di crociera. L'ha ripreso anche Checco Zalone nel penultimo film. Sì, è vero, brava, è vero. E poi ricordiamo i festival di Sanremo importanti. Nel 61 cantò 24.000 baci con Celentano e arrivarono secondi. Pensate, arrivi secondo con una canzone del genere. Quando vedrai la mia ragazza, secondo posto ancora. Nel 64 pari merito con altri partecipanti. Cuore matto decimo, c'è capito? Vabbè, pure Zucchero e Vasco Rossi sono infatti arrivati ultimi, quindi. E anche Un uomo piange per amore a Sanremo. Quante volte è stata a Sanremo? Bada bambina con Mario Azzelinotti. 12, La spada nel cuore con Patti Pravo. Bellissima, ce l'abbiamo La spada nel cuore lì? No, non ce l'abbiamo ancora. La folle corsa con la formula, questo non me lo ricordavo. La folle corsa con la formula. La spada per Mavera, l'abbiamo portata noi, eh? Ah, ce l'hai? Ce l'hai? Sì. La spada nel cuore, sì, e allora sì, sì, ce l'ascoltiamo. Una versione che abbiamo fatto io e Chris. E allora sentiamola. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore e ci resterà. Sei bella in questo momento più bella, adesso che il vento ti allontana da me. Notte di colpo la notte, il cuore che batte è fermo oramai. La pioggia ancora col sole, tu vedi chi nasce, chi muore per te. La spada è nel cuore, mi sento morire, morire per te. Yeah! E c'è l'intro qui? C'è Cri. Ah, c'è Cri, lasciamela. Tu l'hai visto, sei cambiata. Leviamo Angelo, lasciamo Cri. Era giusto. È simpatia. Cambia ritmo, senti. Non era vero. Poesia. Sì. Io sono tua. Non era vero. Funziona tuttora su una spider a tutta velocità per andare al mare, una canzone del genere, dai. Bellissima. Che di Mogol questo pezzo, Battisti. Ah, vabbè, tutto di Mogol. Mogol e Battisti, ragazzi. Che cosa? Lo sai che questa canzone deve cantarla Mal invece che Tony? Ci sta comunque, ci sta, nel senso che hanno tutte e due una vocalità particolare, anche molto inglesante. Ho coniato un nuovo, credo che nuovo termine. Mai perdonata questa cosa, perché proprio... perché il brano era stato assegnato a Mal, mm-hmm, e Tony fece di tutto per prendere questo brano, che Mal lo lasciò veramente a bocca asciutta, ci rimase malissimo, giustamente. Si sono spiegati, sì. Ma penso che ancora qualcosa dentro. Vabbè, le cose finiscono. Sapesse, fossero solo questi gli scippi nella vita. Senti, ricordo di questo papà? Leva il cuore, ovviamente, di figlia. Lo vedevi, hai cominciato a capire quello che faceva. Dal punto di vista artistico, parli. Dal punto di vista artistico, sei riuscito a staccare il papà, l'artista. Due grandi insegnamenti papà mi ha lasciato dal punto di vista artistico: la professionalità, perché io l'ho visto esibirsi in ogni condizione fisica e di salute, cioè colica renale, infarto, quando stava malissimo, cioè veramente lui saliva sul palco sempre, e parlava anche di quegli artisti anche più recenti o anche magari più famosi, che magari perché il palco era un metro più corto non si esibivano, no? Lui invece si è esibito veramente in ogni condizione, addirittura rimandava anche la chemioterapia ultimamente pur di esibirsi, essere sempre al massimo. Rimani con me. Quindi, con questo ricordo, perché continuiamo, dobbiamo lasciare la parola un attimo, ma pochi secondi alla pubblicità, e torniamo con questo bellissimo ricordo di papà. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, sempre presenti, lo sentite, i nostri amici cugini di campagna. Stavo parlando con Cristiana di papà, di Little Tony, che gli ha dato questa grandissima professionalità, perché Little Tony non ha mai smesso di salire su quel palco, mai, con tanto di malattie che vanno da una leggera psoriasi fino alla chemioterapia. Esatto. E io gliel'ho detto anch'io, dico: Little, ma sei un pazzo, sei, no, io sono pazzo se scendo da questo palco. Professionalità e umiltà, sì, la disponibilità verso il pubblico, la gente, lui in ogni dove, in ogni momento si fermava, dava un sorriso, firmava autografi, faceva fotografie, insomma veramente sempre. Poi lui amava sempre dire questa frase, insomma, celebre, ma lui la tirava sempre fuori, che l'umiltà sta al talento come le ombre in un quadro danno forza e risalto. E quindi lui, ispirandosi a questo, Ivano Zaruba, aspetta, guarda come va a finire il prossimo concerto, tu te la rubi. Quarto d'ora a Camilla. No, esatto. Gli dici piano piano, Cristiana, per favore, chiedo scusa. Poi posso rispondere. Esatto. Ridigliela piano piano, perché lui aprirà questo concerto, che io so che voi il 10 marzo. Gli scrivi tu oggi. No, a Marzullo. No, questa è più bella. Lo so, è molto più bella. C'è un po' più, no, che c'è dietro l'angolo. Se incontrerai te stesso, che gli dirai. Insomma, no, questa è già più figa. La ridigli un attimo, Ivano, perché sì, è bella. Allora, però senti, piano. Fagli vedere la Bialy, non sta dietro al microfono, perché sennò non capisci. L'umiltà sta al talento come le ombre in un quadro danno forza e risalto. Cioè, l'umiltà, il talento dà forza e risalto, capito? Sì. Legala in questo modo. Un'uguaglianza di rapporti, una Tiziano risponde. Sì, no, un'uguaglianza di rapporti, ma questo c'è primo il concerto la prossima. C'è primo il concerto. Mi dite, stavamo parlando prima, il 10 siete sì, il vicino 10. Roma. Dove siete? Sì, siamo alla Ballera Romana, appunto sulla Nomentana, proprio all'altezza del raccordo. Sarà un concerto, tutta un'occasione per ritrovarci, per stare tutti quanti insieme. A proposito, venite. Quanti, se siete vicino Roma, sono? Ci sono 850 posti, ma è già esaurito quasi, perciò... Quindi affrettare, vi chiamate. Aspetta, io qualche posto per gli amici lo lascio sempre. Ci abbiamo messo lì il posto tuo, ci sarà scritto il nome, bello, bello. Vicino c'è un altro nome, tranquillamente, è Bucci, ma quello è un discorso. Bucci Flavio, chi? Bucci. Ah, Bucci, ma quel cesso, no, vabbè. No, sta a livelli veramente, è rimasto sull'avanspettacolo anni 50. Cioè, cosa, saranno i 70 anni passati che ormai suonano e si fa. No, ma c'è tua moglie di là, ma come fa a sopportare? Da quant'è che ti sopporta di là? No, di là ti sopporta da un'oretta, ma nella vita, dalla vita in giù da più. Vabbè, comunque, continuiamo a camminare con i cugini. Poi, dopo questi grandi successi che nonostante tutto un critico non ha mai appoggiato, diciamo, finiranno, poi si è accorto che finiscono perché no, continuavano. Abbiamo invaso gli anni 80 grazie alla nascita di mio figlio con questa canzone che ho scritto per lui. Qual è? Com'era? È questa qui. Ricordate? Odore di castagna al fuoco. Questa notte finirà e poi se vuoi meravigliosamente mia sarai. Sì, vai. Io sfido veramente chiunque a dire qualcosa su queste canzoni. Guardate, io ascolto tutto, io mi metto lì e mi sento qualsiasi tipo di canzone che va, da Ray Charles a Orietta Berti, da Albano ai Rolling Stones. Cioè, se sono belle le canzoni, non amo anch'io i critici che dicono tu fai uno spettacolo, beh, ma qui non, rispetto ai masnadieri di Schiller, si fa un'altra cosa, non è quello, è un'altra cosa, non è musica classica, non è musica, è musica pop, è musica leggera che ti accompagna, ti fa sognare, e veramente soltanto un cieco non può ballare ancora questi pezzi. Non sempre... c'è, nel senso, scusate, non è un'offesa ai miei amici non vedenti, no, ovviamente, no, un sordo non voleva essere un'offesa ai non udenti, soltanto a livello metaforico, una persona che non vuole ascoltare, che non vuole sentire, ma ci vede e ci sente benissimo, ovviamente. L'importante è collocarle bene le cose. Se ma uno certo. colloca bene tutto quanto, allora si può fare tutto. È bella, guarda, mi sono venuti adesso, serio, i brividi sull'apertura di Meravigliosamente, sulla spada nel cuore, eccetera, vengono certo. i brividi, no? Uno l'ha vissuti, è vero, quel periodo. Però non puoi non riconoscere la tridimensionalità di certe situazioni. È una frase che io mi ricordo, i miei produttori, che erano Gianni Meccia e Bruno Zambrini, mi dissero subito, quando io andai con la prima volta con la chitarra, io avrei scritto questa cosa. oh, mi raccomando, perché qui il basso fa così, qui la chitarra farà così. E lui ha detto: senti, a me non me ne frega niente del basso e della chitarra, mi devi cantare la melodia. Fatto, beh, però, insomma, no, c'è, ricordati, giusto, che se scrivi una canzone che un ragazzo che, o una ragazza che si sta facendo la doccia la fischia, è fatto. Quello è un successo. È fatto. Allora io sui parte. Ritmi di oggi mi devi spiegare che se cantano. No, ma infatti io ho due figli, uno di 19 anni, due grandi, voglio dire, uno piccolino ovviamente ancora non le ascolta, ha due anni, ma l'altro giorno quello di 13 anni ha detto: papà, riconosci questa canzone che fa... It's a sound of silence. No. E ho fatto: amore del papà, sì. C'ha 50 anni. Quando papà ti dice queste che senti adesso, che Skrillex, Britz, fra ne risentirai più dopo, fra un anno, queste continuerai a fischiarle. Un pezzo dei Genesi, un pezzo vostro senza tempo, di Little Tony, ascolterai sempre. Sempre. Vediamo un attimo che cosa. Questa cosa. No, perché questa è, ci sta Ceccio. Dimmi, ci sta Ceccio, ci sta bene, vuol dire al nord, arriviamo fino al nord-est. Benissimo. Allora, a questa cosa ci sta precisa, perché noi abbiamo cantato questa canzone. Che è questa? Che è dell'amici, questi ragazzi. Questa è Dalida. No, questa è Dalida, va bene. Ma come va bene, sta buono. Va bene, Dalida. Blocca. Volevo dire quella di Fedez che abbiamo cantato. Quella che dice di Fedez. Vorrei Fedez, non è Fedez. Sì, è un po' francese, come mio padre John Vaine. Gregorio Pecchi Fedez. E noi abbiamo dimostrato che in 5 minuti abbiamo cantato questa canzone. Di chi? Se poi è una canzone di Fedez. Vorrei ma non posso. Di Fedez. Che somigliamo. Ma ironica oppure no? 30 secondi. Sentiamo. Sì. No, non state e bene. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo ogni momento. È più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso, e ancora un'altra estate arriverà. E poi lo sai, non c'è. Cos'è che è più bella così? Sì, ma senti tutti quanti controcanti. Eh sì, infatti l'armonizzazione è bellissima. Penso a quello che viviamo ogni ricordo. Ma Fedez l'ha sentita? Boh, cambia mestiere. No. Bellissima, bravi. Oddio. No, adesso prova invece a scrivere, a inventare una canzone come preghiera, che ne so. No, ma anche con l'anima mia, per fare dire quelle facili. No, l'anima mia non la può fare. Allora, ho inventato fin dall'inizio il tutto. Andava minore, maggiore. Sì, spiegalo alle persone che magari ecco, no. Minore iniziava con poi parte il ritornello esplode. Maggiore. Io comincio a dire: ragazzi, qui dobbiamo avere successo, invertiamo tutto. Cominciamo in maggiore. In maggiore. Sì, ma infatti Baba, piedi nudi è maggiore. Però poi non andiamo ancora... sul ritornello in minore. Drum, anima mia, era minore. Allora io andai e dicevo questa canzone. C'era Melis e c'era il RCA, produttore Italo Greco, certo. Grande produttore di Patti Pravo. E allora feci sentire questa canzone e Brividi d'amore. C'era anche Migliacci, ma soprattutto c'era questo Italo Greco che sente la canzone, tutte e due. Era un oriundo, era. Brividi d'amore, sente, dice: questa è bellissima, la faremo cantare a Nada al disco per l'estate. Ecco, ma... io capirei, autore all'inizio, certo. Ho fatto Madonna, oh, why. E me è rimase Anima mia. Feci sentire Anima mia, no. Mi mette la mano sulla chitarra, che io odio questo gesto, e mi ha stoppato sul minore di, proprio del ritornello. Anima, mi mette la mano, dice: ma tu hai scritto una canzone che va in ritornello in minore, ma sei un pazzo. Non aveva gradito la novità. Ma pensa, non aveva gradito la novità. E allora io mestamente sono andato via, ma felice del Brividi d'amore. Brividi d'amore è stata esclusa la prima serata. Meno male, Anima mia ancora cantavo. Ancora cantavo dopo 50 anni. Ma guarda che così tutti i giudici, il successo c'ha tanti padri. Io dopo due mesi passai con Porsche, capito? Carrera... Sì, c'avevi il Porsche? No, dopo. dopo quei soldi d'anima mia. Davanti quei soldi d'anima mia. Passai. A bello ce l'hai 10.000 da benzina. Io parlo Italo. Italo. Erminone, guarda un po'. Ecco, torna a Grecia. Che fine ha fatto Italo Greco? È uno che ci ha visto lungo. Entra in banca adesso. Esatto, ma che ha visto la bella questa. Un affettuoso abbraccio ai figli del mio idolo, ringraziandolo per sempre per la carica di energia che mi dà per andare avanti, dice Tony Amore. E grazie. Allora, voi, Cristiana, papà era nato nel 41, io nel 41, è l'anno della musica, Riccardo Muti, John Baez, Bob Dylan, Pino Donaggio, tutti bravi, tutti nel 41. È un anno fortunato, è stato. Ammazzo, bello, ringrazio. Voi quando sei nato? No, tu c'era nato 61, nessuno. Nel 61. Ma che 61? Io sono del 59, va, quando sei nato te. Ma si vede, insomma. Che quando sei nato te c'erano i bombardamenti. Che... Tu che scappavi, ai tempi sono nati sì, quella nota libera. Meraviglio. Dei mia Sara è lì che ha cantato preghiera. Bravo. E speriamo che non mi via la bomba. Sarà stato l'anni 30 quando guarda non c'avevo di dato Wikipedia c'è sta. Mi dico nome e cognome che io conosco perfettamente. Michetti con una C. Ivano Michetti. Senza capa andate a cercare Wikipedia. Wikipedia via. Mi fai sentire un preghiera, una cosa dannata, dannata di apostrofo annata. Eccolo. Questa è bella, eh? È scritta tutto un po'. Tu mi dici perché l'hai scritto, che volevo sapere. È lunghetta questa a spiegare. Però insomma. Ah no, sono il disco questi pezzi. Che la reminiscenza della cioè, no, perché stavo raccontando la maschietta durante. Dai. Scusate. Basso. Che bello. Bellissimo. Lei si chiamava Iole Ruzzini. Ah, per cui è una storia vera, vedi? 15 anni, ah. Muore per una leucemia fulminante. Non dire. E il suo ragazzo si uccide. Che storia. Esce dall'ospedale e si getta dal ponte. Questo è amore davvero, sì. Amore per sempre. Ci colpì perché quando l'hanno raccolto lui si gettò dal ponte e non c'era l'acqua. Certo. Se non voglio dire il nome del ponte, se no si dice vabbè. Era di quella ponte, zona. Vabbè. E lui chiedeva perdono a tutti, ma lui senza la sua Iole non può continuare. E voi avete fatto questo bellissimo pezzo. E noi pezzo. Abbiamo scritto questa bene, canzone. E allora noi glielo dedichiamo. Bene. Con queste note ci salutiamo, no, ma torniamo all'ultimo blocco insieme ai nostri amici, va bene? A fra pochissimo. Bellissimo. Con i Cugini Campagna, Tony e Cristiana Ciacci. A tra poco. Voice Anatomy. Ecco, abbiamo gli ultimi minuti insieme, anche se ci vorrebbero tante trasmissioni, ma voi mi promettete che tornate, cari cugini, sì. Cara Cristiana e caro Angelo. È meraviglioso veramente, perché poi sono storie belle. Ognuna di queste canzoni andrebbe raccontata perché è nata e non basterebbe una trasmissione già per raccontare questo fatto che tu poco fa ci stavi raccontando. È bello tradurre in musica delle emozioni, anche se certe musiche magari nascono le cose più belle. Tu fai una domanda a un grande cantante, un compositore, è nata in 3 minuti. Sì. Cioè, in quanto tempo è nata certe canzoni che voi avete fatto, che tu hai fatto? Meravigliosamente l'ho scritto un quarto d'ora, perché fu un'emozione tremenda, perché io feci una carezza sul pancione della mamma e dal pancione della mamma mio figlio, una settimana prima della nascita, ha cantato. No, no. Ma da un chiarcio. Aveva cioè, io una carezza, lui, boom, aveva capito. Mi emozionai perché fu la prima sensazione, il primo rapporto con lui. E mi venne da scrivere questa cosa, capite? E fu un grande successo che permise ai Cugini Campagna di partecipare alla storia degli anni Ottanta. Mi hai detto adesso che avete scritto una canzone che è stata scelta come inno per sublimare Maria Teresa di Calcutta, ma in Albania. Questa è bellissima. Tritasheu, per cui cantate... ministro. Ah. Ci ha invitato a fare questa gara. Profeti fuori patria. Tra 5.000 artisti noi hanno scelto i Cugini di Campagna. La dico velocemente. Sì. Perché l'abbiamo scritta di getto. Noi veniamo un pochino dal misticismo di Papa Giovanni XXIII. Cioè io, loro... No, tu pure prima, pure qualche Papa prima. Lo sapevo io. No, allora la canzone è stata c'era, scelta... C'era Papa Leone, c'era quando... Adesso l'ambasciatore ha chiuso tutta una lunga tournée che noi faremo in Albania e avremo come grande... come si chiama? La spalla? No, la spalla no, è brutta. No, ma c'è anche il vescovo del Kosovo. Ah, Trita, no, no, quello, sì. quella, Giorgi, forse Giorgi, la Giorgi che è il vescovo del Kosovo. Ah, apre lui? No, non apre il concerto. Un gruppo famoso albanese, dai. No, si chiama Bivolaru di Agigia, viene e ci aprirà il concerto di Albania. E la canzone scritta, facciamo un accenno a cappella, noi odiano ascoltare i dischi, è brutto. Vabbè, ci siete fatto solo questo, mi pare. Non è che... vabbè, dai. Sì, si ha ragione. Mamma mia. No, ma voi siete pazzi. Bellissimo, sembrava ironica però. All'inizio, però, ma tu sei un cantante lirico forte. Noi abbiamo le voci nascoste. No, ragazzi, è che uno con tanta normalità nasconde un po' delle cose importanti. È così. I grandi sono semplici e le cose grandi sono semplici. E c'è adesso, a proposito di cose semplici e grandi, c'è il mio amico Capuano. Eccomi da qua. Milano. Ecco qua, ci sono i cugini di campagna e i figli di Little Tony, Cristiana e Angelo al mio fianco. Vuoi dire qualcosa ai cugini di campagna? Perché Cristiana... No, ho sentito. Hai sentito? No, basta, sì. Così, vero Capuano? Esatto. Va bene così, no Capuano? Capuano, allora dimmi un po' di risultati, va. Ma guarda, allora, ti racconto che c'è una sola partita finita, che è quella di Crotone, ha vinto il Cagliari 2-1 e di fatto sancisce la salvezza del Cagliari e credo anche l'addio a qualunque speranza del Crotone. E... Ma ne interessa una in particolar modo. Però ci arrivo con calma. Anche lui lo chiamavo l'altro anno, ma in a gioia, perché ogni volta che mi collegavo era mai quest'anno sembra che è cambiato 2-0 del Chievo sul Pescara, 1-0 esterno del Bologna sul Genoa, no. E poi c'è il Milan che sta vincendo 1-0 sul Sassuolo fuori casa. Anzi, in realtà Genoa-Bologna 1-1, il pareggio è appena arrivato, ma ci sarà molto da discutere su Sassuolo-Milan, così come sul rigore che sta portando avanti la Lazio contro l'Udinese 1-0, ma non c'è nulla, sai che non abbiamo capito. Non si sa perché è stato no dato. È stato fischiato per un fallo di mano, è stato chiamato dall'addizionale di porta. Dopodiché noi ci abbiamo provato, ma non, francamente abbiamo fatto fatica. Andiamo sulla fiducia, se l'ha visto, vabbè, c'era. Se l'ha visto, però c'era. Sarà una domenica pomeriggio sera e un lunedì torrido per anche gli altri. Anche il Milan sembra che allora questo vantaggio non è meritato, c'è qualcosa anche lì. Vabbè, ci divertiremo con la moviola, esatto. Altre cose no, perché la Roma stasera... La Roma gioca stasera domani. Alle 20.45, la Fiorentina domani, c'è l'Italia del rugby sotto 5-3 a Twickenham, a fine primo tempo, stiamo reggendo in maniera dignitosa, che è già una notizia. Quant'è, scusami, non 5-3 sentito... per gli inglesi. Vabbè, siamo ancora dignitosissimi, per ora va tutto bene, come diceva quel tale, cadendo dal 10° piano al 9° fin qui tutto bene, all'8° fin qui tutto bene. È una battuta dei Magnifici 7 questa, la diceva Yul Brynner. Va bene. Capuano, salutate Capuano. Un attimo armonizzato, sì. Un Capuano armonizzato. Capuano armonizzato. Armonizzato. Capuano. Aspetta, Capuano. Capuano. Ok, sì, una cosa. Capuano, ci sei? Sì, ci sono. No, è milanese. Dove vado? Allora, ci sei. Ci sei, Capuano? Esatto, meglio, dai. Sì o no? Sì, c'è. No, a me l'ha fatta pennacchia. Facciamola armonizzata. Dai, armonizzata, dai. Capuano, oh Capuano, oh Capuano. Ho la suoneria del telefonino. Ti ringrazio, amici. Ti voglio bene, un abbraccio, ciao. Buona trasmissione, ciao, amico mio. Tra poco con tutti i convocati. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questo incontro, che è stato veramente lungo ma breve nello stesso momento. È stato siamo bellissimo per me. Un'ora e mezza. Ho passato veramente un'ora e mezza meravigliosa. È una delle prime anche volte noi. Che una donna mi dice è stato bellissimo, penso. Me la tengo come suoneria anche io questa. Allora, ricordo i miei amici cugini di campagna che il 10 marzo, 21, no? Ore 21, sì, 21. Sulla Nomentana, su, al, al posto di, come si chiama, la capa, la grande abbuffata, la grande, sì, la grande abbuffata, quella è un'altra cosa, alla Balera Romana, ci vediamo alla tutti quanti, Balera Romana, sì sì, ci vedremo a, ma via si Nometana, mangia lì anche, si mangia, sì, si balla, ci si diverte, una cucagna, ma teniamo a precisare che l'1 marzo invece saremo purtroppo vicino a tutti gli amici di Tiziano, Tiziano alla, dove? Tribuna d'onore, ah c'è Lazio Roma, va bene, saremo in tribuna d'onore, no, perché comunque il motivo è sempre quello, non solito, perché i cugini di campagna, no, non sono tutti della Lazio. No, certo, per carità, sono di tutte, però e dobbiamo due, chiarire di tutte, allora due, abbiamo pensato di cantarvi una cosina, tutta la radio, avete 30 secondi per chiudere, dai, un po' per par condicio, nel frattempo io do un bacio a Cristiana, ad Angelo gli stringo la mano e lo abbraccio come un fratello, e ci rivediamo e ci risentiamo, ci vediamo sicuramente presto, sì, grazie, sai quanto ti voglio bene, grazie, vai cugini, chiudiamo con voi, Roma un po' Lazio, e dai, Roma Roma Roma Roma, gente che hai fatto innamorare. A domenica prossima, vi prego di perdonarmi, a domenica prossima, voi sanatomi, loro saranno ricoverati, io starò qui, spero, a domenica, ciao a tutti, ciao.